ma quindi insomma sono più arrivate mail. Io ogni, dovremmo controllare le mail del runtime. Non mi parlate di mail, neanche quando dicevamo l'indirizzo di tutte le puntate, poi che qualcuno la mo ha scritto. Ma io perché è successo? No, ma cioè vabbè, stiamo tra di noi, posso pure dire. Mi è arrivata una lettera, insomma. Equitalia, una cartella. La lettera intendi una mail? Una mail. Ah, e parla, cioè fa il moderno. Per me è una lettera ciclostilata pure. No, mi è arrivata questa cosa qui che insomma mi chiedono dei soldi. Equitalia, vedi? No, non è Equitalia. Senti, io volevo leggere perché io sono preoccupato, cioè questo mi chiede i soldi, ma non so manco come taglieli. Cioè, così mi fai proprio. Vabbè, continua a essere Equitalia fino a mo. Cioè, spiega. In effetti è vero, però non è Equitalia, perché è un po' strana la lettera, non è scritta benissimo. Dice? Forse è Equitalia. Hai visto? Te ho detto io. Comunque, è Equitalia del governo. Comunque, mo va, leggo perché cioè, così mi hai dato un consiglio. Perché cioè, tra di noi almeno mi dite, cioè, senza colpa a nessuno. Perché, cioè, sì, sbrigate che dobbiamo salutare l'altro. Allora, abbiamo registrato video in cui lei masturba. No, ma chi? Aia. Non lo so, chi masturba? Non lo so, adesso. Insomma, infatti, cioè, io non capisco. Però, esci il cazzo che lo masturba. Buongiorno. Però dice buongiorno. Cioè, buongiorno. Comunque è una persona educata. Sono educati, questa è una cosa importante. Perché vuol dire che si può ragionare. Non riteniamo, quindi sono più persone, però gentili. Non riteniamo che sia una cosa vergognosa godere, carezzare se stessi ogni tanto. Infatti no, non c'è niente da mai. Certe cose. Qualcuno dice il primo amore non si scorda mai. Ogni tanto, insomma, 2-3 volte al giorno, non di più. Certe cose, non scherzate, una cosa seria. Certe cose meglio tenere in segreto. Se i vostri parenti e amici lo vengono a sapere, può diventare un problema. Questo puzza di ricatto, questa cosa. Allora facciamo un appello, tipo mamma di Gualdi, non è vero che Marco si tocca. Ok, no, abbiamo risolto. Io facciamo così, ma magari in diretta li facciamo tra di noi, insomma. Ognuno può essere turbato da certe cose e questo può avere conseguenze pesanti per la sua vita privata e buono stato. Io in buono stato mi sento infatti preoccupato, ma cioè, ma te non stai in buono stato, non ti preoccupa. Per un certo periodo di tempo mi sembra tutto tranne in buono stato. Abbiamo seguito il suo PC con un Trojan virus. Era pieno di Trojan, in effetti. Ecco perché io guardavo sti Trojan. No, scusa, mi fai capire una cosa. Che sei andato a fare Trojan se poi ti sei masturbato? Ma non lo so, cioè io guardavo i Trojan sul televisore, cioè mi è arrivato nel televisore del computer. Il televisore, c'è stavano i Trojan, un sacco di Trojan. Comunque, succedeva questo un po' di tempo. Succedeva, male. Insomma, che dicevo che con un Trojan virus che era stato installato autonomamente e ha infezionato il suo PC. Quindi, cioè, mi hanno infezionato il PC. Sono cose che succedono. Ti ha mandato in overclock questa cosa. Lei è stato contratto dopo aver cliccato su un annuncio pubblicato. Contratto, su, quindi hai firmato? Mi hanno contratto, probabilmente sì, non lo so. Cliccato. Il compromesso era un rogito. Non lo so, qui dice che ho cliccato. Quindi non so. Leggiamo, aiutatemi a capire. Cioè, questa fate lo ciclo, deve sapere un cazzo, fuori, via. È un momento traumatico, scusa. È un momento tra di noi. Anche traumatico. Sì, traumatico. Anzi, sai che ti dico? Giusto perché è un momento traumatico, ti è. Che ci ha messo? No, vai. Ok. Allora, praticamente lei è stato contratto, appunto, dopo aver cliccato su un annuncio pubblicato su uno dei nostri siti pornografici infezionati. Perché questi c'hanno i siti pornografici infezionati, cioè il virus Trojan ci dà accesso al suo computer e a qualsiasi dispositivo collegato sia a wifi che via bluetooth. È una brutta storia. È bruttissimo. Abbiamo visto il tuo schermo e tutto ciò e che lei ha fatto in diretta, perché io stavo in diretta. Teniamo sotto controllo anche la sua camera e il microfono, che possiamo attivare e disattivare quando ci piace. Questi fanno cose. Ma la tua cameretta? Cioè, però, non lo so, posso disattivare la mia casa, cioè io in camera mia non ci devo entrare. Non lo so, cioè, capito, posso stare fuori. Ma poi, cioè, questi sono partiti gentili, mo già te stanno, capito? Capito, cioè, però, ragazzi, a te. Mamma, io sono un po'. Sì, capisco. Poi ci dice qualsiasi informazione che sia interessante. Vabbè, ma in sostanza. Aspetta, è quasi finito. O che ci riguardi, è stata conservata in un modo confidenziale. Però, perlomeno, cioè la privacy, giustamente. No, sono gentili. Per esempio, contatti, reti sociali, email, eccetera. Capito? Per farti capire. Quello eccetera che è eccetera, brutto. Abbiamo registrato video in cui lei masturba in combinazione con la schermata che stava guardando. In quel momento, di un'unica schermata divisa in due. Che qui mi sono perso. È cioè, un casino, non c'è, cioè, un gran casino. Fa capire che sono di un altro livello. Sì, sono su un livello fuori. Questi stanno sopra. Con un solo schiaccio del pulsante siamo in grado di inoltrare questo video a tutti i suoi contatti nelle reti sociali, eccetera, i famosi eccetera. Cioè, questi qui ci fanno uno schiaccio, cioè va. Ma scusa, ma aspetta, Marco, aspetta, aspetta, non è finito, perché se lei vuole prevenire questo, basta trasferire la somma di 650 euro al seguente indirizzo Bitcoin, che è apparente if Jake Butte trette dom, cioè non lo so. Certo, certo. Poi mi dice: acquistare Bitcoin è semplice, è facile, di solito, pure un consiglio, sì, di solito ci vuole una verifica sui seguenti web. Mi hanno dato pure sei web dove comprare Bitcoin. Beh, sono interessante, cioè, è comodo, tranquillo. Ma appena... cioè, quindi Marco, questo effettivamente è un ricatto. Non lo so, c'è ancora un altro pezzo in cui ci spiega. Rate almeno. Esatto. No, aspetta, Marco, scusa, ma ti posso fare una domanda significativa? No? Ma guarda, c'è tutto il pezzo. Quanto ce l'è lungo? Abbastanza. E allora che te frega? Ho capito, ma appena il trasferimento sarà fatto, i suoi dati e materiali video saranno eliminati. Come questo, no, io mi fido, insomma, già tocca fidarsi. Le diamo 5 giorni di tempo per pagare. Nel caso contrario, lei si rende conto delle conseguenze che abbiamo descritto, cioè lo schiaccio, l'infezionato. Noi non sbagliamo. Questo è... No, non sbagliano. È inutile scrivere denence. Non sbagliano, però è inutile scrivere denence. Questo indirizzo email non è rintracciabile. Queste email sono state inviate da un server esterno che si trova all'estero, cioè proprio lontano, lontano. Cioè, dall'estero, tipo Frosinone. Questi account sono stati hackerati, pure, cioè, pure hackerati. Lager dell'hacker. Esatto. Se fa una scelta sbagliata, la scelta è napoletano. La scelta, certo. Se contatta qualcuno o informa qualcuno di questo messaggio, provvedere a pubblicare immediatamente. Ah, no, allora così immediatamente. Allora tu ti sei esposto in questa Ma noi sappiamo solo noi, ragazzi, ce lo sto di solo a voi. Tutti questi materiali e anche qualsiasi altro fatto in nostro possesso che possono farle danni e saranno utilizzati contro di lei, come gli americani, la stessa cosa. Sì. Appena questa lettera sarà aperta riceveremo una comunicazione e da quel che momento partirà aperto, il conteggio. Lei ha esattamente 5 giorni 5 per pagare giorni. Provvedere a un pagamento come Samara, e non un minuto di P. No. Di P. Scusa, ma questo quando lei quando però si firma con i migliori saluti. Un ricatto con cortesia, insomma. E tu adesso sei preoccupato perché sì, ma che l'ho aperta 3 giorni fa, capito? Una cosa. Ma tu prima della pippetta su YouPorn non metti lo spezzetto di scotch sulla telecamera dello schermo? Quale telecamera? Marco, ma vaffanculo, va. Perché c'è bisogno della telecamera? Runtime Radio presenta ottimisti genericamente mortificati. Buonasera a tutti quanti amici di Runtime, benvenuti a questo nuovo episodio, leggermente in ritardo perché eravamo in riunione fra di noi. Chiaramente sento meglio, però scusate una riunione privata, cosa? Prego. No, mi sento più sollevato più dopo che abbiamo parlato, insomma. Più sollevato perché ricordate che il problema, proprio che c'era la lucetta rossa aperta. Cioè adesso tutti sanno dei problemi onanistici, Gualdi? Quali vabbè, abbiamo fatto informazione di servizio. Di cosa parlare? Io vedo niente, Marco. No, vedo che qui arrivano informazioni tipo l'Alabai ha scritto, cioè, che sta cosa è arrivata anche alla madre, ma lei non masturbava. Secondo me sì. Vogliamo sapere cosa faceva, cosa ci stava scritto su questa cosa. No, perché faccio outing per interposta persona. Alla mia ragazza è arrivata uguale, anche lei masturbava. Probabilmente faceva anche pipì in piedi, non capisco. Quindi tutti che masturbano qui. Anche lei si toccava il pene. Sì, esatto. Comunque dicevo, benvenuti a OGM, ottimisti genericamente mortificati. Questa serata speciale perché finalmente abbiamo fatto un ulteriore upgrade. Grazie a voi, grazie a loro, grazie al mio compleanno. Abbiamo fatto un ulteriore upgrade. Finalmente tutti riusciamo a sentire cosa diciamo. E soprattutto riusciamo a sentire anche tutti gli assets che erano. Una domanda. Io non vi vedo, ragazzi. Perché prima non mi sento. Ma abbiamo sempre tutte queste stronzate? Sì, mamma mia. E che diciamo, brutta scoperta. Pure prima, infatti, era meglio che non le compravamo tutte queste attrezzature modernissime con le quali finalmente riusciamo a fare una radio fatta come si deve. Ma detto questo, salutiamo tutti quelli che sono in chat, Walter. Salutiamo Davide Gatti, salutiamo Enrico, salutiamo Lobby Frontali che ha detto: mo' arrivo pure io. Non so se nel frattempo è arrivato. Perché forse è lì che masturba. Non pure so lui, se è venuto, quindi, ok. Sì. Salutiamo Pier G, salutiamo Lallabai che poi ci dovrà raccontare le dinamiche della mail che ha ricevuto la mamma. programma. E poi salutiamo Blade Rizzard che ha fatto l'upgrade, e Michela De Paola soprattutto perché ha detto che famo una colletta, che mi piace, mi sembra sempre una buona idea. Ha fatto l'upgrade, ha fatto. Allora, il problema è che tanto Blade Rizzard che è aumentato praticamente, è come Gandalf è diventato il bianco. Esatto, ma prima era il grigio, lui ha fatto proprio come ti ha fatto il level up, è tipo che ne so, il grigione. Che dice che come i Pokémon. Ho visto Pip e io, che voi umani, giustamente. E niente, dice che l'alabai non gliel'ha detto la madre. Dice che forse c'era scritto, ma Gobbi dice: arrivate eiaculazione. No, però scusate, posso ma fare. Non dovevi smettere. No. Posso devi fare un momento di polemica? Scusatemi, io sono stufo dell'abuso della chat di questo programma per i cazzi propri. Ecco. Questa è una ramanzina a Pier G che chiede in chat a Davide. E poi estende la domanda a chiunque lo possa sapere. Ma le attuali schede madri reggono ancora gli hard disk? Ah, proprio della serie che è molto pertinente, insomma. No, io li stavo passavo da qua per caso. Scherzo, ovviamente, Pier G. Però effettivamente non ti saprei rispondere perché non compro una piastra madre da 5-6 anni. C'ho il mistero che mi attanaglia adesso. Sta cazzo di scheda video funziona con sti cazzo di scheda madre. Peggio. Che cos'è una scheda? Guarda, cosa? Magari Davide Gatti o Blade Rizzard ce lo potrebbero dire. Hai offeso Pier G, che adesso non ci ascolterà più. Funzionare. No, dalla faccina però, più che offeso mi pare incazzato. Però vabbè, sono dettagli. Però penso che la cosa più rognosa sia l'alimentazione. Perché adesso vabbè, ma anche sti cazzi. Comunque, detto questo, appunto, ritorniamo a dire che abbiamo finalmente fatto un piccolo upgrade. Siamo tutti tantissimo contenti. E questa sera abbiamo fatto questa cosa non solo per il mio compleanno, ma perché? Perché praticamente noi volevamo rendere omaggio a un evento importante. A un evento che è oggi? Sì. È oggi. No, è prima di domani. Ah, intanto scusate, Simone Cusella. Ciao. Marco Gualdi. Ciao. Vi saluta con l'altra mano. Prima. Walter Sbano, esatto. Ciao. Sì, oggi è il giorno, oggi è il World Radio Day, la giornata mondiale della radio. C'è un applausone? Lo facciamo noi. Brava radio, brava. Si festeggia in tutto il mondo, è una figata, una di quelle cose che veramente dice ammazza che bello, ci mettiamo d'accordo a livello globale per festeggiare una cosa bella. Ah, bello. E quindi noi abbiamo fatto questa cosa semplicemente perché giustamente dice, vabbè, ma non è che possiamo star lì e di c'è una giornata mondiale da radio e noi non facciamo radio come si deve, e quindi facciamo radio come si deve. A questo punto parliamo un po' di radio, perché di radio è bello. Noi, sapete, facciamo runtime, ogni tanto ci sono questi eventi, il festival delle web radio, festival del podcast. Ma mi consenti di mettere un asset appropriato? Togliamo. Ma lo devi dire prima. Però, no, scusate, è partito troppo velocemente. Vabbè, ma parliamo. No. Cos'è? Perché anni 80 questa cosa? No, perché Radio Gaga. Radio Gaga. Ma chi ti gaga? Infatti. Bella battuta. Bravo, grazie, complimenti. Grazie. Posso dire una curiosità su questo brano? Dopo la dico, dai, adesso non vale la pena. Vabbè, dicevamo, insomma, perché la radio, o forse oggi c'è un rapporto diverso con le radio, perché appunto le radio oramai sono in digitale, sono piene di ritmo, sono piene di contenuti, ma quando... Tranne noi, eravamo, di ritmo. Esatto, non abbiamo né ritmo né contenuti, soprattutto no, contenuti ci stiamo lavorando, dai. Però quando eravamo giovani noi, che insomma veniamo da una generazione nata negli anni 70, le radio erano un'altra cosa. Poro Cusella, gli do una pacca amichevole sul coscione. Perché? No, io le ascoltavo le radio da bambino, da ragazzino. Da embrione, sì. Perché erano comunque, soprattutto la notte capitava, se tu sentivi di sera, la notte c'erano queste radio, le prime radio che tra virgolette private, no? Quelle pirate. Le radio private, radio libere si diceva. Radio libere, esatto. Perché tu compravi lo stereo della Pioneer, dove c'era l'amplificatore, c'era il lettore dei mangianastri, c'era la radio e poi c'era il giradischi, e la radio c'aveva tutte queste frequenze, no? Però noi in Italia tutte queste frequenze a che ci servivano? Mica avevamo tutte queste radio. E quindi uno che fa? Piano piano esatto, che metti l'antenna sul tetto del condominio e te pini il quartiere la frequenza. Esatto, e succedeva insomma che tanto sentivi queste voci un po' cavernose mentre che fumavano e mettevano dischi a caso, e la radio l'ha sempre fatto un po' sognare, perché la radio era una voce, cioè sto rapporto intimo tuo, che eri tanti, però eri tu, e con quello che era lo speaker che stava lì e raccontava le sue storie, metteva la sua musica. Ma tanti, però eri tu, e quando non prendevi il litio praticamente. No, perché tu eri tu, però eri tanti tu che ascoltavano. Appunto, è multipolarismo proprio. Vabbè, no, un po' anche un po' come si chiama quello della Marvel che abbiamo più visto, insomma. Legion, esatto. Dovremmo, dovremmo ricominciare. Esatto, perché noi siamo uno e tanti allo stesso uno, tempo. Uno è ladrino, sì. Uno è ladrino. E quindi niente, volevamo sapere perché poi no, alla fine tutto questo poi alla fine diventa passione. Un giorno ti ritrovi a parlare davanti a un microfono, a fare dei podcast, e poi questi podcast diventano live. E il giorno dopo sei morto. E poi sei morto. E quindi da che cosa nasce tutto questo? Perché per esempio noi quando abbiamo conosciuto Sbano, non ricordo neanche come, sotto l'arco di San Rocco, cioè non mi ricordo neanche qual era il motivo, a dir vero. Era la registrazione video lunga. Ragazzi, è tutta colpa di Sambucini. Ingress. La puntata di Videoludica di Ingress. No, mi ricordo che siamo incontrati, da lì poi dopo è nata questa amicizia. Però abbiamo capito che pure a Sbano gli piaceva, cioè gli intrippava sta cosa della radio, fare la radio, parlare, no, roba del genere. E quindi cominciamo da lui. Da dove nasce questa? Da dove arriva? Che cosa è stato negli anni questa cosa? Beh, guarda, tarda adolescenza. Però adesso levala questa canzone. Tarda adolescenza, diciamo. Va bene, dicevo, in tarda adolescenza mi sono cominciato ad avvicinare a quello che era il mondo un po' delle, diciamo, delle radio romane, quelle un pochino più, come posso dire, di musica alternativa, si diceva all'epoca, perché fondamentalmente non c'erano tanti strumenti come adesso, non ti potevi sentire tutta la musica che volevi, non la potevi neanche scaricare perché internet ancora non era, diciamo così, nato o diffuso, parliamo dei primi anni 90. Allora comincio, sai, i primi approcci alla musica di un certo tipo arrivano per molti romani, non solo per me, con disfunzioni musicali. Non so chi di voi c'è mai andato un negozio di musica alternative, diciamo in zona quasi centrale di Roma, di quelle un po', insomma, come dire, un po' da secca fricchettona, passami il termine. Sì, zona di Termini, esatto, sì. E dove ho iniziato a comprare, insomma, un po' di dischi, a leggere anche volantini di radio più o meno locali. Ho cominciato quindi a cercare quelle emittenti che facessero un po' di rock. All'epoca addirittura ascoltavo, guardavo, ma insomma era più da ascoltare che da vedere, non c'era molto. Ottava Nota, quando ancora Richard Benson non era completamente bruciato. E salutiamo Richard Benson. Sempre da ridere quando uno pensa a Richard Benson. Sì, esatto. E insomma lì, a furia di ascoltare, mi sono appassionato e poi ho cominciato ad apprezzare anche, questo un po' controcorrente, quelle radio dove si parlava un po' di più e si sentiva un po' meno musica. E quindi insomma poi il percorso si è evoluto, ho iniziato ad ascoltare vari tipi di radio e poi in maniera un po' più, come dire, molto in ritardo rispetto alle media sono arrivati anche i podcast. Però grazie alla tecnologia poi, ecco, siamo arrivati al punto che finalmente la radio non solo la posso godere e fruire da utente, ma la posso anche fare. Ma cioè tu la godi nello stesso modo in cui guardi... Lui masturba. Sente la radio e masturba. Sì. Beh ragazzi, la sera con Bertallò certi... No. No, Bertallò, vabbè. Ma che poi, vabbè, giustamente Lobby dice la radio Runtime e la radio pirata 2.0, e non sai quanta ragione, a dire il vero, perché noi mo, perché non ci sente nessuno, ma se ci sentisse ci farebbero un culo così. Sì, diciamo, però dai, con tutti i soldi che diamo a Spreaker, pirata fino a un certo punto. No, Spreaker stava a posto, sono l'altri che non stavano no, a posto. No, io non... Noi mettiamo soltanto roba vecchia. Musica copyleft presa da Giamendo. A voglia, già Giamendo che... vabbè, vabbè, ne abbiamo tirata fuori di roba carina da Giamendo, sì, nel passato. Ce n'è, devi cercare, perché ovviamente non è indizi, devi avere tempo e pazienza di ascoltare un po' tutto e qualcosa di bello ce lo trovi. A me piacevano tantissimo i Pornofonic, non so se li conoscevate, erano quelli che facevano Beat Tune praticamente, però era una band pure abbastanza famosa e poi penso che siano stati pure contrattualizzati, e c'era quella band svedese che faceva heavy metal, Europe. Oh. Non fa che fanno heavy metal Europe, porca secondo puttana. Loro sì, ma che facevano heavy metal con la musica lirica, forse Michela se li ricorda, insomma. Beh, ci sono a Bach, ci sono che fanno musica lirica, i Dimmu Borgir, no, fanno diventare metal, sono a Bach, prendono le composizioni e le fanno diventare metal, sono pure bravi, però sono su YouTube se volete, visto che cercate. Abbiamo citato un genere, eleviamo, esatto, un po' il livello. Che sono i necrofagisti. No, noi esageriamo. I Rush sono gli Isteria deletana. Sono i Rush cutaneo. No. Vabbè, c'è un problema. C'avete un pezzettino di carta? No, il pizzi deve se vuoi sputare. Comunque l'obbligo. Cosa fa? Lei mi mangia la gomma. La inghiotta. È inghiotta quella gomma. Anche già la mia. La mandi giù. vi ricordate quando fece mangiare la gomma americana? Sì, sì, mamma, no, Mike Buongiorno era un tiranno, ragazzi, sì, però sì, magari ne parliamo in un'altra puntata. Comunque, invece, la mia esperienza è stata molto trasversale, perché io ascoltavo molto, cioè, le cose spiccherate. Allora, diciamo che la cosa nasce dal, così come la passione del cinema, dal fatto che mio padre comprava tantissime cose che poi dopo non utilizzava, ma lui le comprava perché di per sé erano status symbol, tipo la cinepresa con la moviola, il proiettore, e io che sono lì appassionato a tagli e cuci le pellicole e via dicendo, lo stereo super galattico col microfonone professionale che non faceva niente lui, però io mettevo lì a fare le prove, cosa, raccontavo, spiegavo, facevo le interviste ai vicini di casa, un po' il cazzo, insomma, praticamente. Che poi alla fine sta cosa si è trasformata negli anni. Ma io sono passato anche per la CB, la Citizen, sì, la Band, la corta banda. Esatto, la Citizen amici. Band in inglese, sì, sì, sì. Che praticamente era il baracchino, no? Esatto, quindi, per gli amici il baracchino. Io sono riuscito addirittura a fare una connessione a 4800 baud con il baracchino, ragazzi, ma che ne sapete? Però eravamo oltre, oltre. Qui c'era Pippo Baud. Pippo Baud, esatto. C'era Pippo Baud. L'alternato del bit, anzi del byte, per misurare le, diciamo, le telecomunicazioni, la trasmissione di informazioni, era il baud, che era praticamente un infinitesimo del byte. Vabbè, però insomma andiamo. Ma io comunque c'avevo sto baracchino semplicissimo, un'antennina messa sul balcone. Attenzione, brecco sul canale. E praticamente alla fine la gente cagava il cazzo, non vedo più la televisione, che non c'entrava assolutamente niente, un cazzo. Esatto. Al massimo, se non eri proprio schermato, diciamo, e quando parlavi che te sentivano dentro la televisione, sì, però, un po' di vibrazione, oppure te vedevi le voci. Esatto, vedevi le voci, esattamente. Fino a che a un certo punto, tra quelle persone che vai a conoscere poi per radio, uno mi fa, dice, io c'ho un President Jackson 150 watt, cose assolutamente illegali, che andavi sulle bande laterali, scalavi le frequenze, andavi praticamente nelle frequenze dei radioamatori, roba del genere. E io dicevo, vabbè, incontramose, dice, sì, vieni qua, se vediamo, te venga a prendere, roba del genere. Qua è il furgoncino bianco sotto casa, eh? L'esco post, fantastico l'esco post. E poi era una leggenda. No, no, io parlavo proprio di un altro furgoncino bianco. Ah, ok. No, comunque, alla fine vado dentro casa di sto tizio, che era piena di svastiche naziste, lui pelato, l'armi dappertutto. Dico, l'amico tuo ideale proprio. Mamma mia, cioè, la cosa inquietantissima. E poi questo metasto President Jackson, io te do tipo, che ne so, 100.000 lire, manco. Ah, sei andato lì perché pensavo che volesse fartelo provare. No, te lo stava provando. No, lo stava proprio a vendere. Poi sono tornato a casa e c'era sto trasformatore, perché comunque. Però ti sei anche ritornato con una svastica in corpo. No, però lì sì che poi entravo nelle televisioni da gente, perché c'era sta cosa che sparava, no? E poi, vabbè, varie esperienze di vario genere. Io mi ricordo, vabbè, questa non c'entra niente. Comunque, vabbè, dai, poi ne parliamo. Possiamo leggere la testimonianza di Michela, che dice: io rendo sempre onore al povero Mazzullo che occupava Radio Rock i sabati sera al suon di Levate che mo te spiego io. Iniziava quando uscivo di casa e la notte che alle 3 che rientravo dal pub stava ancora a bestemmiare. Allora, diciamo una cosa, che per chi non è romano queste cose non le sa: a Roma c'era sta radio che si chiama Radio Rock. C'è ancora sì, ma esatto. Ormai mette anche i Negramaro. C'erano quindi due soci principali. Uno è morto prematuramente, pure l'altro, però quello dopo è morto meno prematuramente, esatto, diciamo. Che era rimasto soltanto uno di questi due soci, che era sto Mazzullo, manco mi ricordo come si chiama, Mazzullo, che era una persona Mazzullo, se vuoi, insopportabile, perché praticamente ogni speaker che stava a fare la sua trasmissione stava a mettere i pezzi, poi magari, che ne so, parlava, no, perché se non fosse, faceva una battuta, no, se non fosse per il fatto che gli autobus non arrivano un orario, non l'avesse mai detto lui era comunque irrompeva. Il direttore della radio entrava e faccio come mi pare, ma lei ha detto, tu capisci in cazzo, perché i comunisti dicono un sacco di cazzate perché quello è, i fascisti dicono le stronzate perché quella ho, perché io l'ho capito, l'ha capito, tu non hai capito niente, ogni volta tipo ogni 2-3 ore imboccava dentro la trasmissione di qualcuno, e poi è morto di infarto. E domandate. E come dice giustamente Michela, però era fastidioso, però era una sorta di garanzia, perché quando, diciamo, dopo che è morto lui, la radio è trascesa, non è più stata quella che noi ricordavamo, che ricordiamo Radio Rock ha dato voce anche a personaggi come DJ Armandino, Emiliano Pappagallo, insomma. Peraltro, da non confondere, perché sapete che nel nord Italia c'è un'altra Radio Rock? Ma sì, quante ce ne saranno? E non è un si nome... capisce bene se nessuno abbia mai registrato di chi sia il brand Radio Rock. Peraltro, scusate, la divagazione, il famoso film I Love Radio Rock In realtà parafrasa la storia di una radio libera inglese che non si chiama Radio Rock. Così apriamo e chiudiamo la parete. Ma sì, va bene. Invece tu, Gusella, qual è il tuo rapporto con la radio? Ti mai, da piccolo l'ascoltavo. Ci hai mai avuto il desiderio di... No. Neanche adesso ce l'ho il desiderio. Io adesso vorrebbe stare a casa, esatto, a giocare col volante. L'ultimo commento di Michela non lo leggo. E spiare anche io. E mentre masturbi. Sì, esatto. Bravo. Beh, è una buona idea. Ma io da ragazzino l'ascoltavo la radio, ero anche abbastanza fissato. Avevo quaderno davanti e subito di fianco. Sì, ma non masticare quella gomma. L'amplificatore Kenwood con il caricatore da 3 CD. Due cassette e vabbè, ovviamente le bande radio. E mi facevo le compilation sulle audiocassette. Mi registravo, cioè registravi tutto. I brani che passavano in radio praticamente. Ero sempre lì col dito ta-ta, pronto a registrare. E appena partiva, bam, subito facevo le playlist. Allora te il problema di ricevere la mail come quella di Bualdi non ce l'avevi, perché De Bualdi? Nel senso tu il dito ce l'avevi, cioè là, sempre là. Masturbava il tasto. Il tasto. Esatto. Esatto, infatti non mi ha mai hackerato nessuno, che tristezza. Infatti, però devo dire che si faceva questa cosa per chi aveva due stereo, oppure ti facevi portare lo stereo dall'amico di sotto, gli dicevo portalo, e come si doppiavano le cassette una volta, ricordiamo questa cosa un po'. Con due stereo, uno attaccato all'altro. Esatto, cioè nel senso non con la stessa piastra, quindi registrazione interna, no? Quando non c'era la fissazione della qualità. No, la qualità assolutamente era su, cioè, non serviva, anche se facevi... Questo mio amplificatore ce l'aveva incorporato, il doppia cassetta, e ti registrava in automatico da una all'altra. Tac, top. Però noi invece avevamo queste altre robe che mi devi avvisare sempre. No, ma io lo faccio a trabocchetto. Ho capito, ma... Lo so, ma... È bello tutto questo. E d'altra parte hai le cuffie nuove, quindi mi puoi sentire. Lo sento, ma io poi sono distratto dalla no, mia... Tranquillo, tranquillo. Anzi, sono distratto dalla mia meravigliosa voce, perché... Insomma... Alla fine tutti questi esperimenti servivano perché c'è sta qualcuno di noi che nasce un po' col desiderio di usarla la voce, no? Di stare lì, utilizzarla, cercare di modularla, imparare a farla rendere più suadente. Infatti raccontavo ai miei amici l'altra sera, mentre che non so dove eravamo, che io andavo fortissimo i primi 10 minuti nei locali, quelli là con i telefoni, quelli che bisognava telefonare al tavolo. Ciao, sei bellissima. Tipo il latte più, questi qua che c'erano. Sì, sì, ho capito. Perché non ci incontriamo? Beh, all'undicesimo minuto ti incontravi. Poi dopo capivano da che parte veniva la cosa e... succede. Era una cosa un po' triste. Però, ecco, mi è sempre piaciuto fare sta cosa di mettiti lì, no? Lavora con... E col baracchino andavo forte, cioè proprio... Tant'è che a un certo punto c'avevo... Avevo messo una mantova 5 su a casa mia al mare, bella alta, cioè un'antenna grossa che arrivava se sa dove, insomma. E c'ho i camionisti che mi odiavano tutti, che ho detto venga spaccato tutta la roba in genere, e tutti gli altri che... Anche perché con l'antenna sul terrazzo non era difficile capire dove stavi. No, assolutamente no, cioè, assolutamente c'era no. Questo vago indizio. Assolutamente no, tant'è che ti ricordo l'ultima cosa, poi dopo voglio sentire anche appunto Gusella e Marco. Io c'ho un'altra cosa. Ecco, appunto, mo te la dico. Che anche a Pesaro, io sono stato a Pesaro per un periodo tempo perché dovetti fare un intervento chirurgico, c'avevo casa di mia zia che era un attico in una casa in periferia, eppure lì ci ho sparato sta mantova 5 che era un'antenna di 3-4 metri, cioè nel senso una cosa impressionante. E parlavo con la gente, a un certo punto un giorno così citofona uno, c'è cioè, yeah, so Duce 2000, tipo il nome dell'interlocutore, esatto. So Duce 2000, cioè, scusa, ma che cazzo ne sai che ci vuole a trovando stai, comunistaccio maledetto, mo vengo su, faccio un casino. Era un ragazzino pure simpatico, cioè un ragazzetto simpatico, veniva, era mezzo matto, i famosi leoni da baracchino di ma una poi volta. Tutti i fascisti nazisti li beccavo io, che insomma notoriamente ma li catalizzavi proprio da lì ho capito che il destino della mia vita era quello di catalizzare fascisti. No, ma più che infatti guarda che bella maglietta che ha Gusè, la maglietta mi fascista, cioè, messa apposta, ecco, vedi, si è rimessa la maglietta fascista, proto fascista, che io gli farei una foto e poi vorrei perché sapere che cosa ne pensare, devo protestare, come sapete tutti. Vai, racconta comunque, racconta. E poi dopo tocca a Gualdi. No, vabbè, non è che c'entra proprio con la radio, però... Praticamente c'era un paese, questi due che giravano, uno con una Panda, l'altro non mi ricordo che macchina, la Panda vecchia ovviamente, l'unica insostituibile, che aveva rifatto completamente, era bellissima, tutta riverniciata. E ha dentro questa radio... Però è una roba, cioè, tipo polizia, una roba veramente che era grossa come mezza macchina, la più grossa del motore. E questa antenna sul tetto, 2-3 metri, una roba enorme. E questi due si parlavano in giro per il paese, ma anche probabilmente in mezza provincia. Adesso non so qual era la portata di quella roba. E in macchina avevano, veramente sembrava tipo polizia con walkie talkie, e si parlavano tramite radio. Bellissimo. Tutto bello, sì. Sempre penso, ho conosciuto un tizio che aveva messo tipo dei diffusori sul cofano della macchina, cioè dentro il cofano della macchina. Vabbè, era un pimpatore antelittera. No, ma poi tu prendevi il fregnetto per parlare per radio, ci scorreggiavi dentro. Dicevi, attenzione, voglio tanto, la gente che si appanicava, facevi lui. Ah, quindi non lo faceva per fare No, faceva per culo la gente. È una cosa che poi io l'ho trovato divertente tantissimo. Tant'è che te sei buttato per terra? Io stavo dentro la macchina. Ah, beh, stavo dentro la macchina. Guardi, invece il tuo rapporto con la radio quando eri bambino, ascoltavi la tu? No, in realtà non l'ho ascoltata tantissimo, però c'era un periodo in cui c'ho avuto il morbillo, quindi sono rimasto. Allora, quando ci si ammalava di morbillo, si stava a casa di un mese, cioè una cosa del genere, perché bisognava stare molto lontani, altrimenti si infettava tutto l'universo. E praticamente sono rimasto a casa, non so, tipo 15-20 giorni, non mi ricordo. C'era questo programma che facevano sulla Rai, un programma comico di cui non ricordo assolutamente il nome, dove c'erano molti sketch comici. C'era il commissario Fiuto, mi ricordo il commissario Fiuto, che era un commissario che risolveva i casi attraverso il suo grande istinto, però alla fine era un giallo comico, dove in realtà c'erano delle, ti davano degli indizi e tu potevi anche indovinare che cosa, cercare di capire che cosa stava cercando, però era tutto comico. È interessante, cioè, questo è stato il mio rapporto più intimo, cioè poi ascoltare stato questo filmato durante questo rapporto mentre io masturbavo, mentre masturbavo. Poi arrivavano le lettere a casa dicendo basta, quindi basta radio. Ragazzi, permettetemi, perché nel frattempo ho scatenato la bestia su Morti di Bestemmie, il canale, il nostro canale cugino, perché diciamo la verità, uno di OGM non c'è, e abbiamo aperto il contest. Cosa ne pensate della maglietta di Gusella? Il primo feedback è di Lobby Frontali, che dice testualmente: fascia. Un applauso a Lobby Frontali. Bravo, lui dice solo quello che voi volete sentire. Certo. Vabbè. E vede solo ciò che noi vogliamo che lui veda. Esattamente. Che poi comunque la cosa bella della radio, al di là di questo, cioè nel senso, quando uno l'ha ascoltata in generale, io ero appassionato dei racconti, cioè nel senso oggi per esempio mi piacciono tantissimo gli audiolibri, però sì, una volta anche a me, è vero, se è vero. Vi ricordate, una volta su 45 giri o su 33 giri c'erano alcune opere enciclopediche, tipo io mi ricordo, e l'ho ritrovata tra l'altro su internet, ed ero quasi tentato di ricomprarla da un collezionista, un'opera sullo spazio, cioè mio padre aveva comprato questa enciclopedia spazio. Sullo spazio, dove dentro Ultima c'erano frontiera. Tipo 10-12 dischi dentro, che tu ascoltavi col giradischi, dove c'era Renzo Arbore e un'altra persona che raccontavano la storia dello spazio, facendoti anche sentire tutta gente che di spazio ne sa, insomma. Aspetta, te ne metto un'altra. Lui era uno speaker. Pizzi, te ne metto un'altra famosa. Vai. Madonna, che era Radio Londra. C'era una volta un re che aveva un giardino straordinario. Seduto e sul sapete sofà. Perché era straordinario? Perché vi cresceva un albero che produceva niente meno che delle mele d'oro. Il re era molto orgoglioso delle e masturbava. Sapete momento... come si chiama questa fiaba sonora? L'uccello d'oro. Certo, tutto quanto molto torna bello. Torna tutto, esatto. Va bene. Cerchio quadra. Però mi sono quasi stupito che Pizzi non abbia riconosciuto le fiabe sonore. No, le fiabe sonore sì, però forse più Michela. Michela, se vieni ti facciamo sentire la fiaba sonora. Che voi non sapete che, a parte questi appunto dischi dove io ho raccontato adesso questa cosa, no? Che però in realtà c'era un periodo, un trabocchetto fenomenale della SIP. SIP era la compagnia. Le favole sull'avanti elenco. Esatto, c'erano praticamente tutta una serie di numeri telefonici che erano dei servizi che tu ricevevi, tipo, che ne so, le notizie sportive. Sì, c'erano vari tipi era di pagamento. Il telegiornale, assolutamente, molto non pagamento. Solo a pagamento, era tanto a pagamento. 4, 5, 10 scatti ogni servizio aveva un costo. C'era la fiaba sonora, c'era, tra questi c'erano le fiabe. Sì. Aspetta, e più o meno recitavano così. C'era una. No, no, tanto il costo era fisso. No, era fisso. Sì, era un tot di scatti per il servizio. Ah, ok, è posto. In quegli anni, ora vi racconto questa cosa. In quegli anni girava questa sorta di leggenda metropolitana, che poi tanto metropolitana non era. Almeno io giuro che ci ho provato in prima persona, ma a casa di un amichetto. Girava questa leggenda che se tu componevi un numero che era 01, 02, 03, 04, 05, 06 fino a un tipo 010, 011, 012, parlavi con la Cina. Ora io non lo so se perché quello 0102 corrispondeva a qualche prefisso internazionale, no, e partiva veramente per una telefonata intercontinentale, no. Abbiamo fatto questo numero e risposto in cinese. Sì, una registrazione cinese, tant'è che noi in 2 secondi abbiamo riattaccato il telefono e non abbiamo dormito per giorni al pensiero che poteva arrivare una bolletta astronomica direttamente scritta in cinese, mille lire, esatto. Capito? Ma noi l'abbiamo già raccontato una volta, c'è stava un numero telefonico della SIP, io non so se era un numero telefonico di servizio, era un numero a 3 cifre o dei servizi, o dei servizietti. Dei servizi, che era una sorta di canale aperto che evidentemente veniva utilizzato dai tecnici per un periodo di tempo, che alla fine, dopo che si era scoperta sta cosa, che evidentemente era rimasta lì come linea morta, stacca tutto, c'era la gente che andavano, cioè tutti facevano e tutti stavano lì, ma tipo quelli più vicini si sentivano meglio, quelli più lontani si sentivano peggio, e c'era gente che parlava, sembrava il demonio, ma tipo una videoconferenza, cioè come fosse la segreteria telefonica della Radio Radicale, praticamente una mega chat era praticamente, e che tu dici pronto, oh, mi senti, sì, da allora che famo domani sera. Cioè è una cosa che poi non pagavi, cioè fondamentalmente c'erano queste specie di bug quando ovviamente i telefoni erano completamente e totalmente analogici, quindi insomma non... Ragazzi, intanto la chat è vivacissima. Michela dice: mia nonna mi ha lanciato la cucchiarella per via della bolletta a causa delle fiamme sonore. Si è più ripresa la povera Michela. No. Manco la ascolta ancora adesso, manco la nonna si è più ripresa. Comunque diciamo, insomma, ecco, la magia sta proprio dietro, appunto, nel sentire una voce che racconta. E quante volte magari tu ti sei fatto un'idea, per esempio, della persona, no? Ecco per dire, voi che non ci conoscete non potete sapere che siamo tutti alti, ma oramai blondi, questi ci conoscono, muscolosi, tutti, tirati con la tartaruga addosso. Addosso. Ce l'abbiamo addosso. Beh, la tartaruga, ma era una caretta grossa, ma una tartaruga grossa ti viene addosso. Tu sei molto famoso e la masturbiamo anche. Così. Marco, tu sei famoso, c'è un canale dedicato a te su YouPorn. Infatti, sì. Che si chiama Tartaruga Addosso. Si chiama Marco ti dà una mano. Sexy due mano anche. Italian. Sexy Italian. Questo è Stelio with the one a mano. C'è il disclaimer che dice: questo uomo non ha voluto pagare. Tra l'altro, esatto. Non ha voluto pagare, esatto. Shame on you. Shame on you. Shame on you. No, comunque dicevo adesso, no, perché ne stavamo parlando proprio oggi, se non mi pare forse stamattina, sul canale, forse Morti di Bestemmio, Videoludica, no? Il fatto che comunque poi alla fine, quando per esempio anch'io ho iniziato ad ascoltare i podcast, alcune voci me le identificavo in una maniera, alcune volte ci azzecchi, alcune volte non ci azzecchi, però la magia della radio sta proprio nella capacità di riuscire a farti immedesimare, diciamo, a creare questo filo un po' particolare, perché non sei distratto dall'immagine, tutto il resto ce lo metti te come fantasia. Tu ce l'hai mai avuto, Walter, questa sensazione? Guarda, sì, però mi hai fatto venire in mente una... Ma tu il PN l'ascoltavi prima di conoscere? No, ma l'ho detto, l'ho confessato. Adesso cacciate, per favore. Ho detto che il mio rapporto con i podcast è stato per molti motivi tardivo e anche piuttosto tardigrado, anche tardigrado, dopo ne parliamo. E no, però questa cosa che mi hai raccontato, a me succede spesso e volentieri, anche la curiosità morbosa di associare, sai quando una voce ha un volto? Sì, con i personaggi radiofonici, ma soprattutto con i doppiatori degli attori, perché tu senti questi vocioni, che ne so, questi grandi doppiatori che danno la voce a personaggi potenti, che ne so, il doppiatore di Russell Crowe, il doppiatore, che ne so, di Arnold Schwarzenegger, no, vai a vedere a chi corrisponde veramente la voce di questi, diciamo, di questi doppiatori. Ah, sì, è su tutt'altro. Cioè, l'effetto se tu, doppiatore, se tu vedi Alessandro Rossi, terribile, che è il doppiatore, per esempio, di Jean-Luc Picard, ma anche di Schwarzenegger, quindi vado a cercare, vai a vedere se è piazzato come Schwarzenegger o no. Adesso c'ha 105 anni. Da d'altronde quelli fanno i doppiatori. E quelli una dose, cioè una dose, hanno pure, voglio dire, come si chiama? Boris, aiutami, cioè René Ferretti, Francesco Pannofino, che è uno dei doppiatori, diciamo, più importanti della sua generazione. Ma te lo immagini, tu associ a certi personaggi, poi lo vai a vedere, ma dici, aspetta, non può essere lui che dà la voce a Denzel Washington, non tornano i conti. Eppure, eppure così, insomma. Comunque ci fa notare Davide Gatti, pensate che quando c'erano i tax, che erano ovviamente le prime frequenze dei cellulari, ovviamente non c'era comunicazione cifrata, perché non era in digitale, era tutto in analogico, esatto. Quindi bastava averci una radio che andava sui 433 MHz e sentivi le telefonate degli altri. Ma io ho già raccontato più di una volta nei vari podcast, e penso anche su OGM, che con un telefono Bosch, che era praticamente una sorta di sottomarca del Motorola, era lo stesso modello Motorola, io il primo telefono che comprai, mi ricordo che lo pagai tipo 800.000 lire. Quando fu nell'81, l'ho preso e lo pagasti. Lo pagai, esatto. Non gli deve sto a raccontare come e perché, ma penso di essere stato tra i ragazzi della mia età, uno veramente a Roma, forse uno dei primi ragazzi della mia età che avevano il cellulare. È finto comunista. Tant'è che ma c'era un motivo per cui me lo so potuto permettere. Per poter parlare con i compagni, esatto, in tutto quanto il mondo. Perché quel giorno, pensate che quel perché giorno. Parlare col PC, esatto, comunista americano. Sono andato a comprare un PC, un Pentium 60, uno dei primi Pentium 60 a Roma quel giorno. Molto comunista pure questa anche cosa. Anche molto pagato, ma sempre c'è una ragione per questa questione qui. Comunque, perché sempre chattare con il Partito Comunista. Esatto, bravo. Era finanziato da PIA. Era finanziato anche che bene. Esatto. E c'era questa cosa che un giorno mi disse un amico mio, che diceva: ma sai che se fai questa cosina qua, tu poi alla fine digi delle frequenze e diventa tipo uno scanner e senti le telefonate degli altri. E io non ci credevo all'inizio, poi dopo che eri un po' addestrato a fare questa cosa, tu devi prendere praticamente la carta stagnola, le va la batteria, dietro il telefono c'aveva i tre piletti, i contatti. Tre contatti praticamente metallici di colore dorato, tu lo mettevi praticamente la carta stagnola intorno a quello centrale, facevi un ponte, rimettevi praticamente la batteria, accendevi il telefono, digitavi asterisco 88 asterisco e da lì in poi potevi digitare alcune frequenze da un range a un range, cioè nel senso da una frequenza a un'altra, sì, adesso un range, non ricordo di frequenze, che tipo di limite c'era, e poi ti ascoltavi lì i cazzi dell'altri. Ed era figo, perché comunque era i primi, che ne so, come posso ma dire? Mentre ascoltavi i cazzi dell'altri, masturbava. No, tu ti toccavi. Senti, te invece volevo porre, tornando al tema delle radio, vi faccio io una domanda. Vi siete mai innamorati di una voce radiofonica e poi, dando un volto a questa voce che avevate idealizzato, ci siete rimasti male? La sensazione si è confermata? Come? Ma io la prima voce di cui mi sono radiofonicamente innamorato è la mia. Poi dopo me ne sono guardato. È un nanismo questo. Molto, sì, qua siamo proprio sul filo della pornografia. Il ministro dell'interno potrebbe far chiudere questo programma, visti i contenuti. Esatto, per satanismo. Secondo me, se lo sapesse che esiste questo programma, avrebbe fatto. Cioè, stare molto in galera, esatto. Sì, esatto. Simone, tu invece c'hai una voce di cui ti sei innamorato nella tua vita? No, in realtà no. Voci radiofoniche, no. Voci, dai, magari non necessariamente radiofonica. Diciamo non innamorare, però che ti. Vabbè, innamorare in senso comunque sì. Che ti vede che masturba. A me c'era una voce di una speaker. Scusate, perché sto per dire una cosa bruttissima. Perché. Che stava su Radio Subasio. Che poi è finita a fare la doppiatrice. Oppure la voce di Simona Izzo. Come doppiatrice, non come... Le Izzo sono una stirpe di doppiatori. Devo dire la verità che, cioè, come voce mi piacevano tantissimo, proprio mi piaceva ascoltarle. Quindi ecco, se fosse capitato, insomma. Vabbè, comunque dai, se questa tema della radio, guardi, ci sta pensando, sì. Guardi, no, non sto pensando, no. Un caso. Invece oggi pensa solo al caso, Marco, oggi suo, quello degli altri. Parlavamo praticamente così del più e del meno su Spotify, Amazon Music e roba del genere, e a un certo punto Walter, come spesso capita, facciamo queste discussioni dove ognuno cerca di portare avanti le proprie tesi, tranne con Gusella, che Gusella lui è scienziato, lui non si può parlare, però io porto le mie argomentazioni a gamba tesi. a gamba tesi. E a un certo punto, giustamente, Walter ha fatto le sue osservazioni su uno di questi store. E poi, giustamente, ha fatto un ragionamento anche fra sé. Ha detto: vabbè, ma mica te lo devo vendere. Cioè, nel senso, e io ho detto: vabbè, però, se me lo devi vendere, vendilo insieme alla bicicletta col cambio Shimano. Da cui il titolo della puntata. Ed è nata praticamente una cosa, perché poi sapete quelle curiosità che a volte, quando uno ti racconta la cosa che magari di per sé può essere relativamente divertente o può essere relativamente interessante, però poi alla fine tu dentro la mente fai dei costrutti, sì, assurdi, e quindi te fa ride, perché tu dici: no, ma sì, ma magari racconta te, perché insomma tu... No, perché dalla cosa della bicicletta, detto, col magari la detto, sì, magari la vendessi. Purtroppo me ne hanno rubate due e mi è passato il vizio di comprare la terza, perché la cosa è nata dal fatto che mi hanno rubato dal balcone di casa non una ma due biciclette, diciamo nell'arco di qualche anno, non una dietro l'altra. Però insomma, sta scena che la prima bicicletta, che tra l'altro avevo ricevuto in regalo quando ero adolescente per la promozione a scuola, una bicicletta che all'epoca costava tanti soldi, è stato il mio unico mezzo di trasporto fino a 18-19 anni, perché non mi hanno mai fatto il motorino eccetera, però quella bicicletta per me era l'unico mezzo che diverso dall'autobus. Una mattina vado in balcone, puff, a prenderla e puff, non c'era più. Che poi a me mi viene da ridere, ma non per la cosa, perché poi mi dispiace, poraccio, non è che, però dico, cioè, uno può arrampicarsi su un balcone per infiltrarsi dentro casa. Tu sai che, no, le biciclette in Italia sono le cose più rubate in assoluto. Sì, ho capito, ma rubare una bicicletta dal balcone, cioè, non è una cosa così pratica, che, capito? Cioè, nel senso, che il ladrocinio di biciclette è uno di quei furti, qualche anno dopo ne hanno rubata, sì, una seconda, esatto, con lo stesso metodo. Allora, sì. Tra l'altro, lui ha seguito, dire? Io ho seguito la cosa, ha seguito quello che è l'iter del rubato normale, cioè del derubato. Quindi, prima cosa, la bicicletta figa. La seconda bicicletta di merda. Ma è sempre così. Per renderla ancora più de merda, ci ha fatto la cacca sopra. Ah, no, appena l'ho comprata, ho strappato gli adesivi, ci ho fatto qualche graffio. Come di guarda, deve sembrare che vale ancora meno di quello che è. Niente, ma nemmeno un mese. Non so, ma non parla mai troppo poco. Allora, io vi dico, così vi do questa informazione, che sul balcone di Smano ci stanno i cerchi in lega. Non quindi è più. Ah, su quello. Ah, sì, è vero. Allora, sul mio balcone attuale, invece, c'è un treno di cerchi in lega, perché a furia di prendere buco ho deciso che nella mia macchina è meglio. Quindi fate ancora in tempo a rubare qualcosa. Pure il treno, ragazzi. Perché è più facile rubare i cerchi in lega che la bicicletta. Cioè, allora, raga, ma veramente, io immagino questo che si arrampica, poi si mette la bicicletta sulla spalla, poi la tira giù e poi va sulla bicicletta. Guarda, no, ma non la tiri giù, la butti di sopra. Ma no, banalmente, no, magari erano in due. Sì, probabile. Dal primo piano, se la tiri giù da una ruota, è spezzato la poesia. Che erano cazzo, i 10 hanno fatto la piramide umana. Mi chiede Davide Gatti se abitavo al piano terra. No, abitavo al primo piano, che non è molto di più, però insomma. Vabbè. Beh, insomma, 3 metri di differenza. Sì. Ah, dal primo piano, neanche dal piano terra. No, bene, dal piano terra, grazie al cazzo, cioè, voglio dire, me l'avrebbe rubata pure mia nonna. Sarebbe stato scemo io a mettere la bicicletta dal piano terra sul terrazzino. No, al primo piano. Col cambio Shimano, sì. Shimano. Vabbè, quindi a questo punto è nata tutta questa questione, cioè, nel senso, mi sono domandato, e partiamo da Gusella: qual è il furto più assurdo o più particolare che tu ti ricordi che hai di subito? Fatto. Insomma. O devi aver fatto anche? Perché, beh, in realtà, prima di entrare qui, prima di arrivare in studio, mi hanno rubato tutti i vestiti. Però fortunatamente, ecco perché c'è la maglietta fascia, è arrivato un nazi che ti ha detto: oh, fai schifo, vesti, ti ha prestato una maglietta. Infatti mi hanno già chiesto 650 euro, così, perché basta, l'hanno già scoperto tutti e sono già tutti a spiarci qua. Beh sì, qua in studio sono tutti a guardare me. Comunque sappi che lobby frontali ti vuole dare in pasto agli squali cinesi, che non so bene se sia una metafora o una realtà, però insomma. No, comunque, cos'è il furto più incredibile che ti hanno fatto? Cos'è? Oh, allora, vabbè, se non te ne hanno fatti tanti, parti anche dall'unico furto che ti hanno fatto. Allora, a me è la cosa che più mi ha fatto incazzare tutta la storia. Scusa, dice Michela De Paola: era ora, Gusè, ma so, di che cosa? Non si sa che cosa. Ma era ora di che? Finalmente mi hanno hackerato. Ma dalla porta davanti o dalla porta di dietro? Da USB. Allora, torniamo ai ladri. Mi hanno rubato la bicicletta. Era una bici bellissima, pagata tipo 50 euro, però davanti aveva il freno a disco, faceva un sacco, me l'hanno rubato. Quindi se le dietro bici, aveva il freno a cassetta, le bici vanno proprio a ruba proprio, Ah beh sì, assolutamente, le bici sì. No, le bici sì, ti ho detto che sono una delle cose più rubate in Italia. Ah, è vero, è vero. Poi, perché forse perché sono una cosa facile da rubare. Poi a Milano, in zona Porta Genova, cioè, c'era. Allora non è Milano. No, poi c'è un riciclo di biciclette rubate che vengono rivendute. Esatto, c'era questo mercato famosissimo, il mercato di Senigallia. Ed è famosissimo, cioè, Porta perché... Genova, Senigallia, oh, quanti posti sono? Cioè, Porta Genova, vicino a Porta Genova. C'era il mercato di Senigallia, si chiamava. E Milano che cazzo c'entra? Oh! Comunque trovavi decine. Lui si è stressa, capito? Lui, non noi che lo tolleriamo tutti i giorni. Lui, va bene, va bene. C'erano decine e decine di... vabbè, non diciamo di quel tipo di persone che vendevano biciclette e se ti andava bene trovavi la tua. Ma questo mi ricorda la storia di un amico mio, ma l'ho già raccontata pure questa, perché proprio oggi parlavamo nel gruppo di videoludica di quante volte ho raccontato le stesse cose. Vabbè, però c'è questo amico mio che c'è a Porta Portese, che a Roma non è soltanto un mercato. Famoso mercato, ma era anche un giornale dove tu c'erano tutti gli annunci di vendo questo, vendo quello, un regalo, addirittura c'era gente pure che regalava. E questo amico mio se voleva comprare un motorino e c'era sto coso, ah, cioè, c'è vendo, ciao, bla bla bla bla bla bla. Ciao. Ciao. E questo gli telefona, dice, ah, ciao, sì, com'è, tutto a posto, ma quando lo posso riprendere? Se mettiamo d'accordo pure domani. Vabbè, ma di che colore è? Tu come lo vuoi? Ma perché di che colore lo vuoi? Beh, vabbè, raga, un po' come la famosa tecnica del cavallo di ritorno, questo è l'opposto, insomma, però... Comunque i vestiti me li hanno rubati perché avevano la perk altissima. Allora, perché non è la porca, si sono accucciati dietro e fumi in un attimo. Ma tutti danno torti, spero. Tutti. Dall'armadio proprio danno tutti. Non vedi come comunque sono. Ragazzi, il concetto di diciamo di furto di biciclette vi cambia totalmente se andate in vacanza ad Amsterdam. Io quando ci sono stato nel 2002, dopo poche ore che stavamo lì, ci si avvicina il classico tossicone con quell'area, che ti vuole vendere qualcosa. Noi ci siamo guardati e detto, ma questo che ci vuole vendere, che qua è il fumo si compra nelle biciclette. Arriva, vuole una bicicletta, vai. Noi siamo trasaliti, poi abbiamo realizzato ad Amsterdam praticamente quasi nessuno compra una bicicletta, soprattutto i turisti. Le comprano tutti da questi junkies che sostanzialmente ti vendono biciclette rubate a 5, 6, 10 euro, perché tanto tu la parcheggi là e con buona probabilità non ce la ritrovi. Esatto, è tutto un meccanismo, una sorta di, come dire, di circolo virtuoso di biciclette rubate. E tant'è che male, che se sei fortunato ti fai i tuoi 4, 5, n giorni di vacanza ad Amsterdam con questa bicicletta, quando è finita la lasci là e la prenderà qualcun altro dopo. Soltanto, diciamo, gli autoctoni e quelli un po' con un po' di soldi si comprano le biciclette nuove ad Amsterdam. Quelli sgamati, dice. Dice Davide Catti che anche a lui gli hanno fregato la bici, tanto per cambiare. Però dice che era rudere, tipo una cosa dei 40 anni fa. E quindi, vabbè. C'è il furto di quello che hanno rubato. Hanno rubato la bicicletta di Fausto Coppi ultimamente. Ah, cioè, l'hanno già restituita. L'hanno restituita? Sì. Ah, meno male, sono contento. È un po' come. Ma la salma di Mac Buongiorno? No, l'hanno trovata. Anche quella è riapparsa. Ecco, quella è restituita, sì. No, perché noi siamo andati avanti un anno con questa preoccupazione del Mike Bonzombi che andava in giro. A mozzicare la gente e fare allegria. Quindi vabbè, Gisella, da te. Comunque poi in famiglia la cosa più brutta è che a mia sorella hanno rubato in 2 anni 3 autoradio. Vabbè, l'autoradio a Roma era un classico. Quella è stato un periodo. Ragazzi, quanti anni fa però? A Roma se non ieri. 4-5 anni fa. Ma cioè, ragazzi, 4-5 anni fa il crimine di Gotham City, cioè, assolutamente. No, ma tu sai che lo sapete che a Roma se tu dici "Oh, ma a te t'hanno mai rubato un autoradio?" tu gli dici "No, sei nessuno, cioè, esatto. Roma. Non sei di Roma." Cioè, no, ti sgamano come la cadrega. Cioè, te hanno mai rubato? No, non sei di Roma. Piace. La cosa bella è che gliel'hanno rubata tipo una settimana prima di Natale, e vabbè. Col vetro rotto, tutto quanto, serratura scassata. A me, per caso, avevano regalato a Natale un autoradio per l'altra macchina. E allora l'aveva andata lei. Dopo un mese l'hanno ancora rirubata. Senti, non è che sotto sotto, ma poi quando questa cosa succedeva, tua sorella tornava a casa con, che ne so, con le scarpe di Prada nuove? No, perché no, scherzo. Ma guarda che, ma anche che stereo sono, quello col frontalino estraibile, no, ormai col frontalino, sì. Allora è vero che ormai gli stereo aftermarket hanno pochissimo mercato, perché vabbè, ormai non esistono più, però ti assicuro cose. Che per esempio quelle macchine che hanno degli stereo, no, di serie anche che po'. Si possono facilmente estrarre, ancora le rubano alla sorella di Valentina, alla sua Panda che ha la, diciamo, lo stereo di serie, che comunque sia è fatto apposta per quella macchina, l'hanno rubato. Poi ovviamente dove sta lei, il meccanismo è che dopo una settimana te ne compri anche tu uno rubato dal primo che trovi, e quindi lo stereo è tornato al posto suo, oppure te ne, però, insomma, te ne compri tuo, era tuo, quello, esatto, è il cavallo di ritorno. Quella, quella si fa con i motorini e con la macchina, tecnica il cavallo di ritorno. Comunque, beh, grazie a Davide Gatti che ci ha spiegato la storia della fiera di Sinigaglia. Vai, dai, ecco, leggi, leggi questo covo di ladri. Allora, aspetta, aspetta che c'era un messaggio anche più in alto. Dov'è? Basta, era solo quello. Ah, mi sono, la fiera di Sinigaglia, il più vecchio mercato delle pulci di Milano, risale al 1800 nel quartiere cicinese, lungo la Darsena, che si trova sotto via Gabriele D'Annunzio. Questo vuoi leggere? Sì, aspetta, vado. Ok. No, ma anche, anche Lobby Frontali sta dando, insomma, il suo contributo importante. Invece dice, te, Gualdi... dice Michela, scusate, a me se mi avessero rubato la bicicletta le avrei presi a randellate, me la portavo fino in cameretta per quanto non ero gelosa. Michela, il problema è beccarli, pure io l'avrei presi a randellate, ma se me l'hanno rubata a nottetempo. No, tu l'hai capito, si portava in cameretta la persona, sai, che rubava la bicicletta. Sapete che cosa doveva, allora, fare? Era golosa, non era gelosa. Sì. Sapete che cosa doveva fare? Doveva urlare. Come è successo a quello lì a ultrasonico, che l'altro gli ha fatto, arriviamo a questo dopo, so, dopo. No, adesso, cioè, secondo me è il momento di raccontare questa cosa che, di cui non so nulla, però è bello. Chi è che ha la notizia a portare in mano? Sono tanto sì, ma prima, allora, vai, prima volevamo sapere le tue cose, però leggi. Scusa, vai, dici le tue cose, dici, vai, le mie cose, no, mi hanno rubato la macchina, però l'ho ritrovata senza tuo radio. Vabbè. No, cioè hanno rubato tutta la macchina per fottermi la tua radio e il tappo della benzina, perché nel frattempo sono succhiati pure la benzina, però la tua radio nel frattempo io era assicurata, perché l'avevo comprato tipo un mese prima, cioè c'era un'assicurazione che avevano fatto proprio quelli del negozio, per cui se ti rubavano la tua radio entro un anno te ne ridavano un altro. Perché hanno smesso di fare queste assicurazioni? Probabilmente sì, io sono andato lì con tutto con la denuncia della macchina rubata con tanto di tua radio, poi ho ritrovato la macchina. No, in realtà no, non mi hanno rubato manco la tua radio. Adesso che ci penso, sono andato avanti con una tua radio di scorta per 5 anni. Ah, nel senso che avendoti rubato tutta la macchina, che includeva anche, esatto, la tua radio, esatto, giustamente tu hai rivendicato. Poi hai, esatto, trovato la macchina con la tua radio dentro, ma sono tenuto. Anche perché tu, giustamente, il frontalino era unico, quindi, cioè, certo, dovuto restituire. Poi niente, che cosa mi hanno, hanno rubato in casa un bel po' di anni fa, 35 anni fa. No, questo è brutto, brutto, ometterei, sì, queste cose qui. Sono troppo brutte, però per il resto grossi furti, per dire che c'è cazzo che... No, no, giusto la macchina, però in quel caso, ecco, l'ho ritrovata, per cui sto a posto. Senti, io volevo invece, coinvolgere Lobby Frontali in qualche modo, perché ci racconta, dice, una volta beccai una signora che a Piazza Verdi aveva beccato il ladro con la bici prelevata poche ore prima. L'ha tanto saturato di improperi che ho avuto pietà del ladro. Mi piacerebbe che lui la raccontasse, ma nelle fattezze del professore. Sì, sarebbe veramente carino. Ci servirebbe il professor Pippo Campo. Esatto, se il professor Pippo Campo, così gliela butto là, ci volesse fare un contributo audio, noi poi lo potremmo mandare online. Bisognerebbe chiederlo. Invece io gliel'abbiamo chiesto, nel senso che era un appello in diretta. Invece io praticamente insomma, non so, ho subito un furto strano, di cui oggi a 25 anni di distanza ancora non so proprio convinto di quello che è successo. Perché forse non ti hanno rubato. No, no, mi hanno rubato. Ah, okay. Mi hanno rubato. Però mi hanno rubato con la con partecipazione di un mio amico, diciamo così. Allora, mo vi spiego. Praticamente io andavo in giro con sto ragazzo, sto amico nostro, insomma. Che non era tanto amico, se... No, no, ma lui era amico. Soltanto, sai, quelle persone talmente codarde. Capito? C'è proprio un codardo, cioè mi dispiace dirlo perché non è bello, poi però tanto non dico chi è, che nome o cognome, però proprio c'è, cioè, questo... lui lo sa, lui lo sa, lui lo sa, lui lo sa, sto pezzo del me, lui lo sa, perché, esatto, cioè nel senso il danno è stato pure doppio, cioè nel senso, se poi ci penso, comunque vabbè, io c'avevo quelle vecchie telecamere Betamax, che per chi non lo sa erano delle telecamere semiprofessionali grosse, perché all'epoca andavano proprio quelle da spalla, che però in più ti dovevi portare anche la batteria a tracolla, perché erano proprio, cioè stavamo a parlare proprio facciamoci un esempio: se tu fossi stato un cavaliere medievale con tanto di armatura, spada, spadone, eccetera, avresti pesato di meno. Peso totale dell'armatura, sì, di sì, fantasci, era molto di meno comunque. Però io ci andavo in giro perché andavamo via del corso a fare le interviste, così se divertivamo a fare sta cosa. Però siccome che sembrava una cosa professionale, la gente pensava che boccavo, non menare al microfono, esatto, no, mi sono fatto anche male, però immagino. E niente, mentre che tornavamo a casa, e arriviamo sopra la metropolitana, andiamo tutta la via verso casa, il cortile, entro nel cancello del mio palazzo, chiamo l'ascensore, entro dentro l'ascensore, entra questo amico mio dentro l'ascensore, poggiamo la telecamera per terra e il batterier che eravamo sfiniti, arriva un tizio, un marocchino nel qual caso, extracomunitario, esatto, che ha accettato, che ci fa dove tutto rompe, però io non avevo, cioè non ci ho avuto il riflesso pronto, insomma mi sono solo girato e quello che vedevo era amico mio che raccoglieva la roba per terra e gli dava questo, e, cioè stavamo parlando dei milioni di telecamere, insomma, perché roba insomma che costava un sacco di soldi. Io mi sono guardato e gli faccio, ma che cazzo stai a fare? Non ho fatto manco un tempo a farlo, che questo qua e il marocchino ha preso e ha chiuso la porta e se n'è andato. E io dentro l'ascensore sono rimasto così come uno stronzo e F4. Continuavo a guardare sta amico mio e dice, ma che cazzo hai fatto? Cioè, c'era il coltello. Senti, io non ce vedo. Però io il coltello, cioè, nel senso me ne sarei accorto, nel senso. No, c'era il coltello. E vabbè, mo dico, capirai che cazzo io dico a mio padre. Vado su casa, porco qua, porco là, papà, guarda, hanno rubato la telecamera. E vabbè. E allora vabbè, insomma, gli arriva un cazzo a mio padre. Allora dopo questo amico mio se n'è andato. Poi giustamente mio padre fa, dice, però dovresti andare a fare la denuncia alla polizia. Dice, vabbè, no, vado a fare la denuncia alla polizia. Allora chiama amico tuo e andate insieme a fare la denuncia alla polizia, perché lui ci ha interagito con sto tizio, se lo ricorda meglio. Gli faccio, guarda, dove manda a fare, no, io non voglio sapere niente di sto cosa, io non mi voglio cazzo, non sono cazzo, non mi voglio un picciano, so niente, non ho visto niente. E sinceramente, raga, io ci sono rimasto basito, perché non ho mai visto tanta ignavia, come si dice, ignavità, codardia, ma essere codardi ma oltre a essere codardo pure un ignavo, volevi dire una merda incredibile. In italiano si dice merda. Comunque poi Lobby Frontelli ci ha spiegato il perché degli squali cinesi, perché sono più cattivi, perché il modo non è male, esatto, quindi bello, questo è divertente. Vedo che Davide pure ha scritto qualcosa. Sì, io volevo raccontare due aneddoti proprio sempre sulla questione dei furti. Uno di Blade Rizzard, mamma mia, sembra un supereroe, che dice: quella volta che mi rubarono il laptop dal cofano dell'auto e i ricettatori andarono a farlo valutare in un negozio di informatica dove lavoravo io. Ah, bene, quindi li hanno beccati oppure? Penso di sì, poi non ci ha dato il finale, ma poi ci deve raccontare come è finita. Adesso così. Ma l'altra, mi hanno inculato anche un cellulare. Attenzione, adesso che mi ricordo, era un Ericsson, il primo cellulare, un Ericsson tipo quello a forma di bottiglia da un litro e mezzo, cioè questo che abbiamo qui davanti, ed era quello con le mascherine intercambiabili con 3-4 colori. Sì, sì, uno dei primi, sì. E praticamente andammo a capannelle, capirai. Ho capito, allora vai a rubare a casa di là. No, aspetta, l'avevo lasciato sul divanetto di dietro della macchina, praticamente, sulla poltroncina di dietro. Perfetto. Perfetto, arrivati sai che anche tu che quando si arriva a Capannelle dopo una certa ora di sabato sera parcheggiavi tipo a 1,5 km. Ma al Fiesta sei andato quindi? Sì, tipo sì. Ho tipo a 1,5 km parcheggiavi sulla strada più buia dell'universo. A un certo punto, dopo 100 metri, ho detto, cazzo, ho lasciato il cellulare dentro la macchina di questa amica. Mi ha detto la macchina tua. Ho fatto, ma mantenere qua, non fa niente. No, vabbè, mi dispiacerebbe che ti spaccano il vetro per rubate. Ma te qua non succede niente. Succede niente, hanno rubato il cellulare. Per fortuna non gli hanno spaccato il vetro, perché gli hanno proprio aperto la macchina. Lui infatti quando è entrato ha aperto, però in maniera strana ha messo la chiave, però non ha sentito il motorino, quindi c'era qualche cosa che non andava, però da infilare la macchina non partiva più, cioè gli era entrato un blocco qualche cosa, perché avevano tentato pure di inculare la macchina con l'occasione visto che l'abbiamo aperta, esatto. Però sai, mi hai fatto venire in mente che i primi tempi che frequentavo la mia ragazza, e quindi quando andavo da lei ancora, diciamo, erano i primi mesi, andavo a dormire in un albergo vicino a casa sua, non andavo ancora da lei. Una mattina faccio check out all'albergo vicino alla macchina e vedo qualcosa che non tornava. Arrivo allo sportello, mi avevano fatto un ricamino allo sportello per aprirla. Avevo la Fiesta del 2006, quindi quelle con le chiavi a cilindro. Praticamente cosa hanno fatto? No, hanno aperto stile scatoletta di tonno una sorta di asola all'altezza della, diciamo, di dove si infila la chiave, sollevando un pezzo di lamiera come fosse l'apertura della scatoletta di tonno. Esatto. Cagavetta. E non sono riusciti a terminare, perché la macchina effettivamente si era aperta. Loro non se ne sono accorti, o sono dovuti scappare, perché prima della mia si erano fatti quella accanto che era più vecchia e l'hanno aperta a regola d'arte e gli hanno fregato stereo e varie cose. Nella mia non mancava niente, avevo addirittura l'iPod nel cassettino vicino al volante e non l'avevano toccato, quindi evidentemente alla mia macchina non c'erano arrivati. Però ho dovuto cambiare lo sportello per quel ricamino, perché non si poteva risaldare in nessun modo. Cioè, hanno fatto proprio un'asola, una cosa assurda. Vabbè. Una sola e un'asola, sì, esatto. E niente, vabbè. Comunque pure a me mi hanno fregato il cellulare, mi ricordo davanti a una pizzeria. Poi a un certo punto ho fatto, tramite un amico mio, squillasto cellulare e scusi, cellulare suonava. No, stavo proprio con sto gruppo di ragazzi con sto cellulare, capito, che stavano là. Però erano, cioè non è che potranno là e ridatemi il cellulare perché mi avrebbero corcato. Però io l'ho detto al pizzettaro là, perché sta amico mio era lì di zona, gli ho detto guarda, dio a lui e vedrai che in un paio di giorni il cellulare. E infatti un paio di giorni mi hanno riportato sto cellulare, solo c'erano le foto dei Totti dentro, è una cosa proprio insopportabile. Così te impari. Forza Roma, quindi, go. Quindi è una cosa anche relativamente recente, perché c'aveva le foto, cioè già sì, un telefono 7-8 anni fa. Sì, ma forse io, a questo punto farei un piccolo break. Ma sì, bravo. Metterei una canzone, non perché questa canzone ci piace, ma proprio perché siamo stronzi. Sì. Non so se sei pronto. Sì, sono prontissimo. Dalla regia, e così poi fra un po' ritorniamo. Insomma, in periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Habibi, sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi. E questa canzone ci racconta di un festival di Sanremo che è concluso da poco, di cui noi non abbiamo parlato, ma ieri sera c'è stato un bellissimo speciale di Alex Raccuglia che noi abbiamo perso perché eravamo a mangiare altrove, ma recupereremo perché sicuramente è stata una puntata. Ma state sempre a mangiare, bella appassionante. Sì, infatti poi dopo pure Gualdi dice che è andato a mangiare, perché quando tu gli dici Gualdi sono andato a mangiare una cosa, no, però poi dopo sta sempre a mangiare fuori. E stava con una ragazza e lasciava il dolore. Oddio. Però vabbè, detto questo, perché abbiamo visto questo? Ma guardi, non possono rubarti l'appendice. Ci avevamo pensato pure a sta cosa. No, perché come... l'appendice del che tipo di effrazione? No, scusate, l'appendice di Gualdi è come la macchina di Gualdi, fa così schifo che gliela ridanno. Gliela restituiscono, infatti. Sì. Comunque, praticamente stavo a dire una cosa e me la so assolutamente scordata. Abbiamo visto questo brano perché questo brano ha vinto Sanremo. Ha vinto Sanremo grazie alla giuria tecnica, diciamo così, perché altrimenti non avrebbe vinto. Gomblotto! E quindi c'è stato un tizio ultimo che si è incazzato perché ha detto. Perché è arrivato ultimo. Cioè, che poi ci fai pure. Insomma, voglio dire, ma. Perché è arrivato secondo a un punto? State zitto. E comunque tutti hanno scatenato la polemica, come oramai succede sempre in questo meraviglioso paese, dove oramai è uscito fuori l'impronunciabile, l'indicibile, come dicevano, lingue che oramai sono state dimenticate, nomi che non vanno più pronunciati. Noi oramai ci frega un cazzo, siamo diventati un popolo dei beceri razzisti, dando praticamente dell'extra comunitario a sto tizio che in realtà lui è di nazionalità italiana, perché è nato in Italia, la madre italiana ed è italiano. Cioè, quindi è, insomma, è una storia meravigliosa. No, ma ricordiamoci, se sei Sharawi va bene, se sei un cantante no. Eh sì, vabbè, il cantante però scusa, canta le cose straniere. Canta le cose straniere. Che poi posso dire una cosa? Non devi essere per forza straniero per fare musica de merda. No, assolutamente. E ogni riferimento a Loredana Bertè è puramente casuale. No, no, infatti, cioè, vuoi dire, ma un po' io non so, solo lei. Non conosco minimamente il tenore di questo Festival di Sanremo. Perché ma io neanche dei qua dei 69 prima lì, quanti ne hanno fatti, insomma. Ma 68. Oggi era, quest'anno, infatti, era la, il festival numero 69. Speravo che, avesse, che potessero fare qualche cosa di più. Esatto, un po' più, capito, in tema. Comunque, Rizzard ci fa sapere che a lui gli hanno aperto la macchina, ma gli hanno fregato solo un altoparlante, e lasciando lì lo stereo e la macchina e tutto il resto. Hanno preso strettamente quello che serviva. Si chiama furto etico. Pure, no, serve questo, pure io ho visto una volta Gualdi rubare l'antenna della macchina, tu dici, esatto. Ma perché? È perché mi serviva quella, cioè. Serviva. No, a me mi hanno fregato le borchiette delle ruote del pandino quando avevo 18 anni, una me ne fregava, una me ne riprendeva. Infatti poi ce l'ha tutte sul balcone, quindi sappiate, esatto, ladri di zona, andate, insomma, che... tranquillamente. Oh, salutiamo Fabio Parola che prima ci ha detto: ciao a tutti, sono passato solo a salutare, vi ascolto poi in podcast, non mi perdo una puntata. Grazie, bravi, Fabio, bravi. Grazie. Ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Comunque ci abbiamo queste cose del furto che Gusella sì, ci... un po' di notizie a tema furto. Allora, vai, vai Gusella. La paura si taglia con il coltello a Candia, che si dice Candia, ma o noi Candia, piace più Candia. Candia. Candia è più bello. Che sembra un po' anche qualcosa di, esatto, blasfemo, insomma. Esatto, Candia. Vabbè, se tu fai così, allora scusa. Frazione presa di mira dai banditi che da Natale continuano a saccheggiare abitazioni senza che nessuno riesca a fermarli. È terribile, tutto c'è, cioè, terribile. Nella drammatica serata di venerdì, quando i colpi si sono susseguiti uno dietro l'altro fra Osimo, Offagna e l'Interland Anconetano, è toccato ai Carabinieri. Marche, quindi. Sì. È toccato ai Carabinieri. Sambucini. Già impegnati su più fronti, dare la caccia al malvivente che si è intrufolato in una villetta di via. Vabbè, vabbè. Prendi cosa è successo. Un'esperienza da brividi per una mamma che si è trovata faccia a faccia con il ladro mentre frugava nei cassetti della camera da letto. Alla ricerca delle mutandine. Sì, sì, sì, esattamente, proprio quello. E la mamma cosa fa? La mamma urla. Urla dallo spavento e continua a urlare. Sbombami. E il ladro cosa dice? Scusi, scusi, non è niente, me ne vado via subito. Quindi se n'è andato. Però, ma secondo me è allo sbombami che se n'è andato. Che poi ricorda un po' quello che ha condiviso oggi sul gruppo di Morti di Bestemmie da Danilo Giardino, e i film dell'orrore al sud, insomma. Quando entra quello là con la maschera distorta, là, che come cazzo si chiama? Quello di Scream, sì. Che lei strilla contro perché l'ha portata la zuzzeria dentro casa. E va bene, ragazzi. C'è anche un'altra notizia, un po' più vecchiotta, mamma, che se ne frega. Tenta di rapinarla, ma lei è la fighter dama de ferro e lo massacra di botte. Aspetta, questa che è la nonna di Blade Rizzard dal nome, non ho capito cos'è che c'è. Cioè, infatti, allora, Poliana Viana, 7 volte campionessa. Mamma mia, già solo il nome, Poliana Viana. 7 volte campionessa UFC, che è campionato ufficiale. UFC World Football Football Championship. Ha subito un tentativo di rapina, ma con due mosse ha steso il suo aggressore. Quindi ci sono anche delle foto in questo articolo. Cioè, l'ha veramente distrutto questo. L'ha gonfiato. Gira. Mettilo sulla chat di Spreaker così. Sì, giusto. Giusto. Non saprebbe come, secondo me. L'ha veramente devastato questo povero Cristo. Cioè, povero un cazzo, però, insomma, povero diciamo, cazzo, diciamo sì. Che povero no, povero perché non l'aveva ancora. Lo è diventato dopo. Vedi come povero, diventava sì. Povero. Era un ricco disgraziato. Vabbè, quindi è stato massacrato. Intanto Rizzard dice: guardi, mortacci tua, ecco chi è stato a rubare l'antenna. Insomma, raga, pistato come l'uva. Allora, lei sembra la Rodriguez, l'attrice, sembra come si chiama un po'. Esatto. Sembra un po' Michelle Rodriguez. No, Rodriguez, sì. Sì, sembra il tizio che sia stato attaccato da 5 sciami di api, esatto, contemporaneamente. Sì, ma api di 30 kg, esatto. Lui che lo pungevano, picchiavano selvaggiamente. Lui secondo me dopo ha cambiato sesso dalla vergogna, perché voglio dire, cioè veramente è pistato come l'uva. Vabbè, ho capito, se questa mena raga, sì, non sì, è che... infatti. Cioè, no, ma non è che mena te dà un cazzotto e te lascia andare via, te devi morire. Diventa il Fight Club, sì, sì, esatto. E hanno suggerito anche qui, che ricostruito la vicenda, che questa tizia avesse detto: oh, se non te ne vai ti sottraggo. Esatto. Cioè ti meno. Cioè, è la stessa cosa, è un termine, sottraggo significa te meno. Esatto, ti sottraggo, ti meno. Mi sa che Pizzi non l'ha capito. È meglio che non l'hai capito. Pizzi, il momento che la capirai, emenerai te. Ok. Lo sottrai. esatto. Esatto. Poi te la spieghiamo. Vabbè, così lo sottrai con senti, comodo, cambiamo argomento. Insomma, ieri sera abbiamo optato per un ristorante di nuova tipologia, un ristorante giapponese. No, complimenti, ottima scelta. Ma la seconda, sperimentare questo ristorante, di cui non dirò il nome. Ma siamo andati chi? Noi vogliamo sapere chi, guarda. Io e un'ascoltatrice di questa radio. Ascoltatrice di questa radio, che cose indecenti che non vogliamo sapere, che schifo, perché io appunto penso a voi e porto gli ascoltatori. Ma dov'è la deontologia professionale? Tu da speaker non puoi frequentare l'ascoltatrice. Ma esattamente il contrario, esattamente il contrario. Secondo me bisogna vedere se l'ascoltatrice sono qui chi frequento io che diventa l'ascoltatrice. Esatto, bravo, cioè, esatto. Non capisci il mio lavoro intanto, certo, faticoso per portare clienti qui in ascolto. Cioè, intanto vabbè, Davide Gatti, mosso a pietà, sta cercando di spiegare in chat la battuta di Cusella a Pizzi, ma... che ancora non ha realizzato. No, nessuno. No. Voi... meno sottrazione. Ah, ok, okay. A posto. Quindi questo ristorante giapponese, pensando che fosse una cosa un po' particolare, un po' giapponese. Giapponese. Cioè, ti aspetti una cosa giapponese? Esotico, diciamo. Entri dentro, ci sono due ragazzette, sono due fighe, diciamo. Due ragazzette. Avete prenotato? La mia collega. Ma era giapponese o ma era? Che giapponese? No, di un'italiana, di Roma. Di Torbella, si vede proprio dal becco la mia collega vi porta al tavolo. La sua collega. Questa, venite, prego, venite. Questa sta voce. Cioè, venite, prego, venite. Questo ci porta. Detto sto locale. Cammina. Fino a più sto locale, cammina. Alla fine, giù fondo, siamo arrivati. Giustamente detto, scusa, ma la mia raccomandazione è quella di stare vicino all'uscita per far vento, niente, c'è cioè sempre alla fine. Vabbè, quindi la tanto fino vento... a lei, no? No, con sto cazzo. Abbiamo fatto la romana. Abbiamo fatto la serata, ha lasciato sul tavolo 650 euro in Bitcoin. Esatto. Cioè, tenete il resto. Vabbè, ma lui è un ricco possessore. Comunque, in ogni caso, questo ristorante, per la cronaca, di cui non faccio il nome, però per la cronaca, un ristorante medio, secondo me, quelli che frequentiamo noi ultimamente di più, stanno sopra. Comunque, a fianco a me c'erano. Ma come costi o come qualità? Cioè, come qualità, ma come medio. Però ci sta la sì, però ce ne sta, ma c'è anche dentro, sono tre ragazzette. Comunque a fianco a me c'era una coppia, coppia di ragazzi, guarda, ce l'hanno avuto 24-25 anni lui e poco di meno lei è russa. Coraggio. No, lei è russa di... Pensate quanto aspettava. Esatto. Oh, this is very very funny. Yeah, cazzo, da. It's a great job this, che cioè, parla, ci presenti i russi, sbomba, c'è presente i russi, Chekhov buon'anima, cioè Chekhov della... Esatto, c'è presente i russi nei film americani, interpretati da americani, che fanno i russi, cioè che c'hanno quella, tragedia, quella cosa, quell'accento, questa parlava un po' russo, un po' italiano, no, russo, no, scusate, un po' inglese, un po' italiano, e farciva le frasi di cazzo. Farciva cosa di golosona. È golosona, è una cosa che ha imparato molto bene. Mi è stato fatto notare che aveva il segno del vaiolo. Del vaccino. Del vaccino del vaiolo. Perché oggi, prima di capirti, ci hanno messo un po' il vaccino. Io mi immaginavo le stigma. No, del vaiolo. Il simbolo, cioè il segno del vaiolo quando facevano la trivalente. La vecchia. Ce l'ho pure io. Esatto. Sì, però tu c'hai 45 anni. 45 anni, se ce n'hai 20-22, non ce lo dovresti avere perché il vaiolo è stato dichiarato debellato. Sì, comunque. Da qualche decennio. Pare che sia in grande rispolvero. No, in realtà, no, non esiste più. Diciamo che se è debellato. Non esiste più, è proprio... Non c'è più il virus. Quindi che cosa... La mia teoria è che i russi, o comunque l'estremo... diciamo la parte... Vabbè, l'estremo la parte est, lì, sì, verso la Russia, continui la vaccinazione, perché sai, quella fialetta che uno che si è tenuto lì da parte, che dentro al cassetto del virus del ceppo del vaiolo, che magari un giorno potrebbe tornare un po' utile... Sempre meglio. Cioè. Loro sono vaccinati intanto. Esatto. Poi, io pure. tu, ma quelli che hanno 20 anni no. Io penso che magari è lo stesso tipo di ago, ma magari dentro gli hanno sparato altro, che ne sai, che so. Oppure l'altra cosa è che magari viene semplicemente educata alla maniera siberiana e quindi gli spengono le sigarette sulle braccia. Anche. Potrebbe anche essere i sigari cubani, perché esatto. Se la, cioè... può darsi. Che io condivido sempre. Assolutamente. Ma questa è una coppia normale, fondamentalmente erano due ragazzetti che chiacchieravano. Okay. Dall'altra parte cambio invece c'erano due ragazze, due belle ragazze, una di 27, non ci arrivava a 30 anni, era di meno, e un'altra che aveva 20, 20, 21, 22 anni al massimo. Rifattissime, cioè acido ialuronico che Dio proprio che Dio come la mano. Se piovesse. Esatto, labbroni giganti. Questo, no, bel posto questo. Labbroni giganti così con così capito. E quell'altra con la più piccola che forse aveva le tette rifatte, ma non si sa, magari era soltanto giovane. Non ha potuto toccare, però ce le avevano anche queste grosse, però un po' di meno. Le labbra gonfie non è che sono proprio belle. Può nessuno gli schiaffi. No, magari, guarda, lì ci vorrebbe Pippo Campo. Pippo comunque, Campo. Se gira la ragazza, arriva questo cameriere cinese, che però, vabbè, di cinese c'è soltanto la faccia, capiamo, cioè, insomma, perché lì praticamente, buongiorno, buonasera, così. E arriva e gli fa, scusa, ho chiesto anche all'altro cameriere, perché la bocca c'è. Certo, a culo ho di chiesto coglione. Anche all'altro cameriere se mi può fare avere qualcosa col flambè. Cioè, 3 secondi di silenzio, perché nel frattempo il cinese qualcosa con purché ci sia il flambè. Col flambè. E il cinese è stato zitto 3 secondi, perché nel frattempo stava a macina bestemmie. Può ripetere? No, perché ho chiesto anche l'altro cameriere se mi portava qualche cosa. Se mi portava qualche cosa col flambè. Prima di tutto c'è il menu elettronico con la parte, cercatelo. Se mi portava qualche cosa col flambè. 2 secondi di silenzio. A chi ha chiesto? All'altro cameriere. Mo io lo faccio venire qua. Cioè, già l'infame, capito? L'ha scaricato. Dopo tipo un paio di minuti arriva l'altro cameriere. Nel frattempo si saranno scambiate le peggio bestemmie tra di loro. Arriva e dice: mi scusi, sì, prego, che cosa vuole? No, chiedevo se avete qualche cosa, se mi puoi consigliare qualche cosa col flambè. Altro 3-4 secondi di silenzio, perché questo pensava: ma che cazzo mi ha fatto fare di non imparare il cinese? Che mo' io volevo bestemmiare in cantonese e mandarino in faccia e non mi avrebbe detto un cazzo, no? Così, no, l'italiano mi sono imparato. Non so, mi dica, no, col flambè, mi dica, cioè, è rimasto là a spiegargli questo miracoloso ingrediente, il flambè, che praticamente andava su qualche pietanza e lei amava tantissimo il flambè, insomma, bellissimo, cioè bella gente, complimenti. A me è bello. Beh, io infatti ho sempre detto che questo lavoro non lo posso fare, perché quante volte mi è capitato al ristorante cinese o giapponese, tipo una volta una potrei avere degli spaghetti normali. Cioè, è molto razzista questa cosa. Ma sì, eh? Ma poi ma cioè, a casa con gli spaghetti che hanno delle difficoltà, scusa. No, qui solo super. Esatto. No, ma poi un'altra veramente dice: no, perché io non posso mangiare niente, volevo delle zucchine grigliate. Cioè, statene a casa, vaffanculo. Ma allora, ce l'hanno però le verdure grigliate. Ho capito, ma non mi rompe i coglioni, ma magna, ma c'è stato. Ma magari ha accompagnato un'amica che rompeva i coglioni. Ma combatte con i vegani, i fruttariani, i crudariani. Ma io invece quella che si è portata al cane, me lo ricordi che la posso portare al cane? No. No, perché cioè, sti cazzi. A me mentre, quello che mi piace. No, non ho fatto entrare poi. Nei ristoranti italiani, oramai, cioè, noi siamo diventati così. Cioè, sì, oramai, per non sta a combattere con la gente. Tu ci fai quello che cazzo fa. Nei ristoranti cinesi, regà. Non te devi azzardare. Quelli sono cinesi. C'è stata una volta questa qua, dice, le bacchette al ristorante dove andiamo noi di solito. Loro le bacchette le riutilizzano. Non sono quelle che usa getta, esatto. Che prende spezzi e poi butta. Sono che se sterilizzano, se lavano, se sterilizzano, si spera, riuscono. Si sterilizzano, no, si no, fanno credere che, beh, come le forchette, si spera che si sterilizzano, cioè, infatti è la stessa cosa, cioè nel senso il principio è uguale, cioè, quindi non è che tu mi puoi dire, le posso portare via, no signora, no, questa è posate, no, come no, io no, prendo no. Posate, porto via posate, cioè, ma il bambino le vuole, non fare cazzo, gliela strappate dalle mani del cazzo della ragazzina, ha fatto bene, mi dica la cinese, io sono sempre contento, ma no, perché il bambino le vuole, allora capito, io mi immagino questa scena al ristorante cinese, la signora che dice: posso portare il cane? Sì, non si preoccupi, glielo cuciniamo noi. No, niente cibo portato da casa. Vabbè, lo cucinano, me li porti vivo. No, io devi portare cotto. Io adesso, nel frattempo, Michela dice: Simone, tu non puoi fare nessun lavoro, neanche sì, una tabaccheria puoi entrare. Infatti, no, lui non fa nessun lavoro. Io ieri sono entrato in tabaccheria. Sono entrato sorridendo, sono uscito bestemmiando. Perché hanno finito le camere light. Sto cazzo de vecchio che si stava praticamente a giocare la pensione. Ma io li mortacci vostri. Ma poi. Cioè, tu è stato lì 20 minuti con tutte le schedine vecchie a rigiocarle. Cioè, tutte quante. Perché prima o poi escono pizzi. Ma tu non sai la tattica. Doveva ricontrolla tutte, me le ricontrolli tutte e me le rigiochi. Certo. Mezz'ora, regà. Ma guarda, Simone, ma tu pensi, cioè, molti, non tu, molti pensano che la ludopatia sia un fenomeno moderno dovuto alle sale slot, eccetera. Ma guarda che i vecchietti che si consumano la pensione con il lotto esistono dalla notte dei tempi. Ok, pure schedine, sistemi. Ma comunque la cosa era contenuta, perché comunque. Perché c'era un'estrazione a settimana. Oggi questi entrano dentro la tabaccheria e ci bivaccano. Cioè, questo è stato lì mezz'ora, raga, ma mezz'ora, non vi sto a dire una cazzata, ma mezz'ora, perché poi sono andato via io, perché poi e mentre uscivo bestemmiavo, capito? Perché poi e mia moglie, ah, ma lascia fuori, che te frega, me frega, perché mi fa incazzare, cioè poi dopo il problema sono i politici. Vabbè, ma a te in quel caso specifico, diciamo, non ha recato un danno, perché non è che stava in fila davanti a te. No, non mi ha recato un danno, ma rega il danno fastidioso, cioè, etico, sì, proprio il fastidio, cioè mi fa, io mo adesso non fumo più, quindi non entro più nei, però ti è venuta voglia di fumare in quel momento, però, no, a parte quello, e spegni le sigarette sul braccio, no, so, e fai il segno del vagliolo. Quando io quando andavo a comprare le sigarette dovevo stare 20 minuti, un quarto d'ora in fila, a meno che la signora a un certo punto ogni tanto si distaccava perché questi sta tutti vecchi a giocare. Ma poi io voglio sapere, tu vecchio, ma perché io posso capire, non lo posso capire uguale, perché io non ho mai giocato, non giocherò mai, però non lo posso capire il giovane, no? Il ragazzo che va lì e spera di cambiare la vita, cazzo, cioè, ma tu sei vecchio, c'hai, cioè, 4 sciampi di vita ti sono rimasti, i mortacci tua, costi 4 sordi, ma regalali a tuo nipote, regalali a tuo figlio, ma che cazzo li vai a buttare? Ma vattene, ma magari, a mignotte, vattene alle figi. Simone, permettimi, però magari lo fanno proprio perché guadagnano così poco che quello è il loro tentativo di avere qualcosa in più per fare le cose che dici. Anche ma fosse, sei morto, ma anche fosse fare il regalo al nipote, o addirittura, dico la cazzata, comprarsi il pezzo di parmigiano per la spesa. Guarda che la situazione è capito, per molti personaggi, per non comprarsi il pezzo non te lo mangi per tutto il mese. Sì, questa è la parte razionale. Irrazionalmente chi poi è ludopatico e con è una malattia, insomma. Lo sai che ora vi racconto questa cosa senza fare, aspetta, però io prima voglio chiedere, perché prima che tu cominci questa cosa voglio fare un appello a Gusella, perché è sempre così, no, interessato. Gusella è qui in questo studio, che è lo studio più bello del mondo, che tra l'altro studio... abbiamo fatto la trasmissione, no, con no, la scusa, aperta, è una cosa seria, è lo studio più bello del mondo. Qui dentro ci sono passati tanti, c'è passato Luca Casciola, Alex Raccuglia, c'è passato anche Michele, il nostro caro amico Michele, ci ha lasciato tante belle cose, quindi c'è tanta, cioè, è tanta cosa. Gusella, quando è che smetterai di fare il burattino di Simone e Walter? Esatto, il burattino. No, ma dai, ma no, io non sono un burattino. Comunque, se vogliamo prendere un attimo il tema politico, posso dire soltanto una cosa. Ci avete mai fatto caso che Conte, che è il presidente del Consiglio, quando parla si è appena fatto un ciospone? C'è proprio un bombone di quelli, perché parla un po' il chiusino, parla un po' tutto sbiascicato, un po' tutto, sì, perché sì, perché quello un po' così, un po' centro socialino appena uscito, ha trovato la soluzione, solo un burattino. Di Maio mi ha detto che io non sono un burattino. Un burattino nelle mani del destino. Allora, io stamattina su Virgin Radio c'è quello che fa il Cavaliere Nero, che era indignato perché questa cosa che il parlamentare europeo ha dato a Conte, praticamente c'ha ragione, del burattino, mi ha spalmato così sta delicatezza, dicendo tu sei il burattino di Salvini e Di Maio. Oh, anzi, ha detto, no, quando ha detto, quando è che la smetti? Fai il presidente del cazzo del consiglio. Allora, niente, questo sarà indignato, questo del Virgin Radio, perché dice: comunque io da italiano mi devo sentire offeso di una cosa del genere. Io no. Ma io sta cosa non l'ho mica tanto capita, cioè nel senso, perché mi devo sentire offeso, cioè, poi da uno allora, che è fortemente avete, critico, ragazzi, no? Avete ascoltato, io l'ho messo in vari gruppi interni nostri oggi, il discorso completo da cui poi è scaturita questa affermazione specifica, il parlamentare europeo Guybrush Threepwood, sì. Ragazzi, ha fatto una disamina, è stata agghiacciante, in italiano sua, poi sì, esatto, tutto in italiano, nella sua ragionevole verosimiglianza, cioè non, ha fatto una critica di 8 minuti a un paese che dice era sostanzialmente la culla dell'Europa, siamo diventati le ultime merde, siamo integralisti, siamo completamente anti-integrazione, non vogliamo questo, non vogliamo quello, non creiamo opportunità, non facciamo niente, dice, ma quando prendiamo per culo tutti, quando rompiamo il cazzo a tutti, queste figure del merda, cioè dice da pilastro dell'Europa, sì, diciamo che oggi è stato, no, ieri è stato un giorno triste a livello proprio politico, perché comunque sono stati bombardamenti da più fronti, perché giustamente c'era il tizio che diceva sei un burattino, quell'altro dei socialisti europei che dice cioè ma che cazzo di paese siete diventati, cioè io mi ricordo un altro paese, esatto. Tra l'altro citando che poi tutti quelli che si indignano dovrebbero fermarsi un attimo a pensare del fatto che tutte queste critiche che arrivano dall'Europa, anche se sembrano opportune e da un punto di vista, come dire, della lesa maestà lo posso anche capire, però sono vere. Cioè non si può non prendere coscienza del fatto che ci stanno criticando non in maniera impropria, non in maniera speculativa, non in maniera arbitraria, stanno dicendo semplicemente la verità sul nostro paese. Poi ci possa far piacere o meno è un altro discorso. Ecco, questo per dire. Ma la cosa più bella, ragazzi, l'ha detta ieri Grillo, perché ha visto che Di Maio e Company sono zitti da dopo il risultato delle elezioni in Abruzzo. La genialata è riuscita a dirla. C'è uno, non mi ricordo, comunque del Movimento 5 Stelle, che ha detto che rispetto a 5 anni fa hanno mantenuto. Beh, certo, usano il parametro che gli è più comodo. Ma addirittura rispetto a 30 anni fa hanno 180.000 voti, certo, in più. Certo, come l'analisi costi-benefici, funziona... basta che metti i parametri che vuoi, tutto quadra. Grillo ha detto: ah sì, è andata come è andata, allora gli abruzzesi ci devono restituire 700.000 euro e l'ambulanza che gli abbiamo regalato l'anno scorso. Cioè praticamente Grillo è come se avesse detto: il voto di scambio non ha funzionato, ridammi i soldi. Cioè capite dove sono arrivati? Vabbè, sì, mamma. No, onestà. Grillo è uscito di testa penso da 5-10 anni. Senza considerare che no, ma prima lo teneva a bada Casaleggio, adesso che non c'è più Casaleggio. Ma avete visto il suo, diciamo, discorso di Capodanno video? Ah sì, cioè, l'ho solo visto in intravista. Sì, nel 95 su Telepiù. No, dai, l'ultimo. No. Quindi dice: io ho già trasceso da tempo, adesso sono l'immortale, ora vedo come tutto. Come Ciro. Cioè, ma cose... Madonna, rinchiudetelo, veramente. La camicia infatti, di forza c'ha molto. Comunque c'è molto meno... visibilità di un po' di qualche anno fa, perché lo tengono proprio comico, l'hanno mandato fuori di testa, si vede. Cioè, secondo me lì lui Casaleggio l'ha mandato fuori di testa e lui oramai adesso è senza controllo. Esatto. Comunque dicevo, senza considerare il fatto che i rapporti tra Italia e Francia sono ai minimi storici, no? Perché e questo io continuo a sostenere che il Movimento 5 Stelle fa parte di una massoneria atta alla distruzione di tutto, cioè non, allora gliene frega niente costruire, cioè questi devono distruggere, stanno lì. Io lo dico da tempo in memoria, assolutamente, come dire, da tempi insospettabili, che questi vogliono governare sulle macerie, non lo so perché, ma questo vogliono. Anche perché non sarebbero in grado di costruire qualcosa, anche volendo governare su qualcosa di più, diciamo, di più stabile, non sono in grado di costruirlo, per cui vabbè. Però dai, se no tutte le settimane pare che vogliamo apposta parlare male. Infatti, andiamo a... lo sapete che vi dico? Perché poi alla fine, cioè, nel senso, c'è un momento in cui bisogna dare un taglio alle cose, e allora ecco qua, diamo questo taglio. Spazio, lasciami spazio. Levete. Mi stai a rubare lo spazio. Spazio personale. Mi stai a togliere il supporto vitale. Esatto. Beh, ragazzi, allora che dite? Un po' di Star Trek finalmente? Sì. Beh, molto, allora, molto più Star Trek dell'anno scorso. Allora, diciamo che poi bisogna chiudere 2, 3, 4, 5 occhi. Però vabbè, bisogna li chiudi pure volentieri. Bisogna essere indulgenti. Diciamo che la buona volontà ti fa essere, come ti posso dire, come ha detto Gualdi, indulgente. Anche perché fare peggio dell'altro anno non si poteva assolutamente. Ciò nonostante, per quante critiche noi abbiamo fatto nel passato, per ovvi e motivi fondati, Kurtzman ha dato una struttura a sta serie, ha dato una struttura e sta costruendo anche dei personaggi che oggi non sono più dei cartonati che stanno sulla plancia, dei conte che si buttano lì, esatto, che stanno lì dei quali non sai neanche. Sono dei cartonati in CGI fatti, esatto, molto bene. Sì, però diciamo che hanno dei nomi, hanno dei cognomi, hanno anche delle storie. Pensa, l'unico per ora che ancora non abbiamo ben capito è Faccia de Latta, testa de Ferro, esatto, de Ferro, che sta lì, la dama del Airiam che... ma probabilmente arriverà, però sì, diciamo aver reintrodotto delle trame autoconclusive per i singoli episodi probabilmente ha aiutato molto. Sempre... che poi sono sottotrame. C'è una trama lineare da seguire, sì, però sì. Adesso ci sono le trame autoconclusive. Sì, ma era un po' come l'ultima stagione, o no, la penultima stagione di Enterprise, dove c'era comunque la guerra con X-Indy, però ogni puntata c'è la sua. Ma se ci pensi l'hanno fatto anche in Deep Space Nine. Diciamo che oggi è una tendenza, perché non esiste più il serial televisivo con... cioè, ossia serial televisivi di questo tipo, diciamo, con le singole monotrame e basta. Diciamo che prima c'era la trama orizzontale, quella verticale, adesso c'è quella diagonale, sì, cioè esatto, si muove verso una direzione, ma ci sono cose, c'è una trama orizzontale che però poi ovviamente ogni tanto diciamo si aprono delle sottotrame, perché comunque anche nel contesto di alcuni episodi, come per esempio l'ultimo, che può sembrare, perché poi può sembrare una puntata a sé, in realtà è comunque poi c'è sempre uno contestualizzata sviluppo all'interno del discorso, e ogni elemento è comunque finalizzato al fatto che comunque in alcuni casi devono mettere delle pezze in certi frangenti, in alcuni altri casi servono comunque per arricchire una trama che sta diventando interessante. Perché tant'è che perché Star Trek? Perché c'è il mistero. Eh sì. Ma devo dire che l'episodio inizia con diciamo un tentativo. Bisogno uguale, perché poi noi abbiamo saltati due. Cioè. Allora, noi stiamo parlando del quarto episodio, quello trasmesso venerdì scorso. Perché il penultimo non l'abbiamo commentato comunque. No, perché non abbiamo fatto la puntata. Però in quest'ultimo episodio sostanzialmente parte, secondo me, in maniera un pochino maldestra, però capisco che serve a rifare pace con la tradizione, con questo dialogo sul ponte dell'Enterprise, o meglio della Discovery, in cui sostanzialmente Pike parla col suo primo ufficiale sull'Enterprise, che nel frattempo è sbarcato, dicendo il numero uno stiamo avendo dei problemi, mannaggia, è colpa di sti cazzo di sclerolografici che ci impalano tutti i sistemi, mo li leviamo e rimettiamo gli schermi tradizionali. Mi sembra una cosa un pochino raffazzonata per giustificare, diciamo. Lo so, però non è colpa loro. Cioè, è come quando ti arriva il monte della situazione che te deve mettere. No, perché io dico, non sei obbligato a dirlo. Mostramelo solo visivamente. Fammi prendere atto del fatto, con l'inquadratura, che sull'Enterprise capisce, ci sono gli splay tradizionali. Ma lì poi ti chiederesti perché. Invece ma non lo so, è come il Mario Monti che ti mette arriva al 25%, ma non è colpa sua, è colpa dell'Usconi che ha fatto il casino prima. Messa giù così mi è sembrata super. Loro stanno a fare tutta una serie di dialoghi, perché non è né il primo né l'ultimo blog. Non sarà l'ultimo assolutamente. Dove si cerca di dare una contestualizzazione, dando, come posso dire, una pezza che ci può anche sta. Perché comunque questa cosa del dialogo che tu dici, dei display olografici, c'ha un richiamo nella puntata precedente, se tu hai ben presente. Che lui infatti usa solo video. Quando chiama la base stellare dove era incarcerato Spock, il tizio, il comandante della base, dice: sei l'unico che ancora vuole usare i monitor bidimensionali. Quindi lui la giustifica col fatto che lui, fatto, a me gli ologrammi mi stanno fastidio, mi sembra di parlare coi fantasmi. Sapete perché tutto questo è forzato? Dal fatto che, siccome sappiamo benissimo che poi nei secoli successivi la tecnologia ologrammica non verranno utilizzate se non sul ponte ologrammi. Però vabbè, diciamo che l'episodio comunque poi si sviluppa bene, c'è tutta una parte dedicata a Saru che è veramente intensa, poi finisce in maniera diversa da come io mi sarei aspettato, anche se fosse finita come ci si aspettava, ci rimanevi in un certo senso male, però non essendo finita in quel modo ci rimane male lo stesso. Però detto questo, volevo leggere il sunto di Davide Gatti sull'episodio. Sì, però aspetta, facciamolo per punti, perché sennò, perché è un po' anche questa poi è un'estremizzazione un po' eccessiva. Allora, quale? questa di Davide Gatti. Sì, sì, dice, assolutamente. Inutile Pike, inutile, dovrebbe far capitano, non ha deciso niente. Sono parzialmente d'accordo, perché fondamentalmente no, no, tu lì quello non lo fai, ma guarda che è meglio che lo fai, va bene, fallo, quella cosa tu devi seguire i miei ordini, sì, però guarda che io sono bravo, vabbè, ok, cioè in effetti un po', e serve per fare il contrappasso di Lorca, che invece non si inculava nessuno, manco diciamo davanti alla morte, no? Sì, diciamo, però sta cosa un po' sfugge di mano, perché poi dopo diventa un personaggio che, cioè, a me piace, diventa un po' Conte, diciamo. Però sì, diventa un po', un po' una banderuola. Spocca c'è rotto i coglioni e manco si è visto. Non si è visto, mi sembra pure questo un po', cioè è chiaro che Spock è l'elemento portante un attimo di questa stagione, per una ragione che è tipica tradizionale del Star Trek, perché Spock già in passato ha avuto dei legami con le intelligenze superiori che arrivavano, ma poi Spock è quello che ha unito i Continuum, ricordiamocelo, esatto, cioè a quindi, ruolo strategico, quindi ci sta. Ed è chiaro che un po' te lo fanno sudare, perché in teoria Spock non doveva neanche essere presente su Discovery, cioè nel senso hanno voluto richiamare un personaggio che è iconico all'interno di Star Trek, e secondo me ci sta. Poi a rotter cazzo, cioè damogli tempo per un pecerca, certo, vedrai ancora. Un po' esagerata, insomma, sto staccanimento un po' così, però vabbè. Guarda, poi... a me m'hanno paradossalmente rotto più il cazzo i pianti, le frignacce di Michael Bornan, che ogni tanto piagne per qualcosa, cioè piagne in senso lato, però fa: no, la prego, capitano, non mi deve far parlare con mio fratello. No, vabbè, allora voglio parlare con mio fratello, capitano, la prego. Cioè, basta. Perché durante la puntata poi quasi da, come dire, sei resa conto che invece c'è un'altra affermazione di Davide che mi ricorda un po' un'altra affermazione che mi è arrivata un po' per privato, che poi magari una volta ne parleremo, perché voglio raccogliere un po' tutte queste affermazioni che sento dire in generale e poi magari fare un'analisi, no? Perché c'è pure questa questione dei gay, la contrapposizione lesbica, roba del genere, come sono se... un po' stereotipati sia il gay che la lesbica, però su questo non posso dar torto a Davide, nel senso che non è perché sei lesbica sei una meccanica camionista, se sei gay maschio ti piacciono i fiori, cioè stanno proprio stereotipando gli estremi. Non è molto infatti da a me non vedo camionista, non vedo fiori, cioè, su sta cosa. Io ti dico che in una serie come Star Trek, che da sempre ha rappresentato un certo tipo di comunicazione, anzi pure troppo tardi sono arrivati i gay e le lesbiche, perché questo era un discorso che risale alla notte dei tempi. Il concetto è un altro, cioè, se tu li rappresenti per stereotipi, quando teoricamente in quella cultura, in quel futuro, la libertà sessuale è tale per cui probabilmente non c'è neanche linearità di genere, non li puoi stereotipare in quella maniera. Ma perché sono stereotipati? Cioè, che vuol dire sono stereotipati? Ma tu non è. Ma perché l'atteggiamento di Stamets è tendente. No, non voglio dire all'effeminato, però è tendente a. Okay, cioè, voglio dire. Ecco, non vuol dire niente. Che vuol dire che è andato spaccormuso dal culo. No, però un velo non lo puoi anche non stereotipare. Una persona effeminata che sta lì e c'ha comunque il gusto, la tendenza ad essere quello. La stessa cosa, al contrario, l'ingegnera che è diventata personaggio ricorrente, che è stata salvata nel primo episodio, che è la classica, tra virgolette, il classico stereotipo di donna androgina, proprio, anzi ipermascolina, perché ovviamente è una lesbica. No, ma, ragazzi, non... Ma chi ha detto? Infatti che non lo sappiamo se è lesbica. Cioè, dove sta scritto che è una lesbica? È questo che io voglio capire. Dai, capito. No, è Macarena. Cioè, nel senso, quando tu mi fai vedere la scena che questa è lesbica, allora ti dico ok, cioè noi abbiamo deciso che questa deve essere lesbica, quindi siamo noi che stiamo stereotipando, perché una l'attrice è mascolina ed è lesbica, cioè fondamentalmente, cioè partiamo da solo supposto, vabbè. Quindi cioè allora dopo diventa un contraccanimento, cioè nel senso, allora dato che sta dappertutto, allora ci dà fastidio perché e via dicendo. No, cioè, non mi dà fastidio, ti ripeto, mi sembra paradossale questo stereotipare determinati archetipi, però vabbè. Lo so, io dei gay ne ho conosciuti tanti, un paio so anche persone con cui ho avuto delle lunghe frequentazioni anche per lavori che abbiamo fatto insieme, e sinceramente, cioè nel senso, non ci trovo niente di stereotipo nell'essere un gay e anche a volte affemminato. Se evidenzi quel tratto, stai stereotipando. Però vabbè, dai, non, cioè, per carità, sono punti di vista. Cioè, erano due persone, erano due gay, erano tutte e due uguali? No. Quindi comunque hanno preso due sfaccettature di una cosa che comunque è una realtà. Non è che se la sono inventata, non è che andava in giro a fare. Cioè, nel senso, mi sembra un po' esagerato. Però vabbè, per carità di Dio. Però possiamo dire che non c'entra un cazzo con i gay che secondo me, di, che, diciamo, il fatto di Saru che adesso è diventato puto spacco il culo, c'ho più paura, vaffanculo. No, l'unica cosa, no, è questa cosa su Michael Burnham, che in effetti, cioè, nel senso, era diventata un po'... Io più che altro mi sarei posto la domanda, ma ora, lagnosa, cioè, insomma, coi gangli non ci possono più far brodo, perché... No, io secondo me i baul, che oltre ad essere oggetti che contengono altri oggetti, secondo me i baul sono i crepiani senza i gangli. Può essere. Cioè, noi vediamo che questi spariscono, ma non sappiamo che fine. Cioè, in realtà questi non... Cioè, loro pensano di sacrificarsi, ma in realtà vanno in un altro posto dove c'è l'evoluzione del crepiano, che è quello senza gangli, cioè, nel senso, però questa è una cosa che secondo me si svilupperà. Sì. Secondo me già gli hanno dato comunque... Perché il fatto che hanno fatto vedere la cosa sul pianeta suo, il fatto che hanno fatto sta puntata dedicata fondamentalmente a questo cambio particolare, al rito della cerimonia del passaggio, secondo me ci ritorna sul pianeta. Sì, sì, no, secondo me. Ricordiamoci che Saru è un po' come, per molti motivi, è un po' come il motore a spore, deve sparire, nel senso che altri crepiani dopo non ce ne saranno. Comunque non ce ne sono. Probabilmente da lì a 100 anni e passa, probabilmente non hanno ancora inventato la curvatura. Beh, non mi sembrava essere così prossimi a inventare la curvatura. Tra l'altro, io infatti mi domando quando. Però quell'altro c'è motore da sport. Quando la Giorgio lo ha prelevato da quel pianeta, perché lo ha preso? Cioè, la sua conoscenza, la sua preparazione scientifica era proporzionalmente alla cultura di provenienza rispetto allo stato. Beh, però è riuscito a far funzionare una tecnologia aliena per mandare un messaggio. Ma quello secondo me è un paradosso, perché lui non aveva neanche la cognizione che quella tecnologia potesse esistere, non poteva neanche capire che cos'era. In realtà loro conoscono alcune, perché si baulla niente. Ma è questa, infatti, la cosa che non è chiara, cioè, perché comunque è contaminazione loro, cioè, nel senso, no, non è che... loro sono un popolo sub questo lo dici te, cioè, tre voli nello spazio proprio. Però infatti lui comunque riesce a decifrare una tecnologia che non è la sua e riesce a mettersi in contatto con loro. Anche perché se la tua vita è incentrata sull'aspettare il momento che qualcuno te se deve magnare, non c'è motivo per progredire. Ma forse. Infatti era quello il discorso per il quale lui poi l'ha fatto questo discorso, nel senso, molto probabilmente io non rivedrò più la mia gente, non rivedrò perché più, perché loro non c'hanno motivo per andare avanti, cioè, nel senso. Però questo a me mi infastidisce, però sono abbastanza d'accordo sul fatto di Michael Burnham, che comunque la possiamo giustificare col fatto che lei, quando è entrata a far parte della flotta stellare, era molto vulcanizzata e alla fine come una gomma bucata, come una gomma, esatto, cioè. Però a un certo punto ha, come te posso dire, sciolto quello che è il suo rapporto con i sentimenti. Da lì in poi è diventata un invece po'... mi pare di capire che Davide ci abbia un po', come dire, ce n'abbia per Tilly, che dice: non è davvero credibile che possa mai fare il capitano, potrebbe mai avere l'equilibrio mentale e passare il test della Kobayashi Maru. Aveva una tizia che la distraeva e nemmeno ha saputo gestire la cosa. Vabbè, stiamo parlando comunque di un guardia marina, cioè diagli tempo. Manco Crusher la prima volta che si è seduto sulla console di timoniere pensavi che sarebbe sopravvissuto a un giorno con Picard, e poi ha fatto strada, che ne sai, cioè. Vabbè, ha fatto una brutta strada comunque. Anche perché ricordiamoci che nella prima stagione Picard era proprio uno stronzo da quel punto di vista, poi lo hanno ammorbidito tanto. Sì, no, quello è vero. Però dalla prima alla seconda stagione il carattere di Picard è stato ridisegnato completamente, però vabbè. Allora, il discorso è che una volta lo hanno spiegato, comunque il comando di flotta arruola praticamente per l'addestramento al comando determinate persone con determinate caratteristiche, non so solo strettamente psicologiche o caratteriali, ma comunque con determinate competenze, e alla fine poi le addestrano per diventare quello, cioè, quindi lei non è che oggi è pronta per diventare capitano, lei comunque è in una fase di addestramento per diventare capitano. Poi è chiaro che lei c'ha dei suoi limiti oggi come personaggio, ma è quella un po' la contraddizione che ti fa giocare sul tipo di persona. Anche io dico: vabbè, questa capirà, può fare il capitano. Eppure ha delle contraddizioni, però tante volte ha tolto le castagne dal fuoco. Sì, ma infatti l'evoluzione del personaggio è potenzialmente infinita, cioè, anzi è uno dei personaggi più interessanti, proprio perché cioè, da lei ti aspetti tutto e il contrario di tutto, cioè, nel senso, sì, esatto, fine, aspetto pure che sei magni triboli fino a poi, cioè. Secondo me sei già magnati, cioè. A parte vediamo, esatto, come ne esce fuori dalla prossima puntata, perché è stata rifagocitata la situazione. Lei sarà comunque la chiave del, diciamo, del chiavica, dipende. Porrello, dai. Sarà però una delle chiavi che chiuderanno la trama principale. Vabbè, comunque, detto questo, insomma, vi consigliamo di andarlo a vedere se non l'avete già fatto. A proposito, su Netflix continua ad arrivare roba. Sì, troppa roba. Troppa, più di quella che in una vita sola si riesce a guardare. Come al solito, non tutto di buona qualità, qualcosa di più, qualcosa di meno. Leggevo che è stato più o meno ufficializzato e confermato che il film spin-off, o meglio il seguito di Breaking Bad, che dovrebbe essere incentrato tutto su Jesse, verrà pubblicato anche su Netflix, però non sappiamo quando, però mi sembra una buona notizia. Buono. Invece, ragazzi, sapete che stavo leggendo che questa è proprio una notizia da Gnan. Come si chiama la serie? La serie di Netflix, Black Mirror. È una cosa da Black Mirror in tutti i sensi. Pare che Netflix conservi tutte le scelte che facciamo quando guardiamo Bandersnatch. Che schifo, vergogna. Con blottone, ragazzi. Vabbè, non mi sembra una cosa così strana. Adesso avranno profilato Michela come una che fa saltare la gente dal balcone. Esatto. Arriveranno paracaduti qui. Tanto siamo piano terra, quindi tranquillo. Grazie ad Alexa, sanno dove abiti. Scusate, no, però Davide ha paragonato Tilly a Giorgiata. Vabbè, sì, qui stiamo un po' esagerando. Questo è l'accanimento proprio ideologico. Cioè, Jar Jar non doveva esistere. Jar Jar è un errore, proprio è uno scherzo della natura in tutti i sensi. Non ci doveva essere e basta. Tilly è semplicemente un personaggio. Certe volte finisce per essere la chiave comica delle situazioni drammatiche. Sì, però ci può stare. Nella sua umanità, lei ha potenziali risvolti. Ed è comunque un personaggio che all'interno di quel contesto c'è. Sta, anche perché vedete che è comunque quella che spiazza sempre tutti, no? In un contesto dove sono tutti un po' più rigidi con la scopa, lei è più, insomma, un po' come po' come Data che ti fa una battuta quando non è il caso, ecco. Oppure dopo 4 anni che l'ha capita, insomma. L'ho capita adesso, esatto. Vabbè, ragazzi, che dire, insomma, sì, abbiamo portato a casa pure questa puntata, direi. Il saluto a Massorda è sempre qualcosa di piacevole. Tu vuoi dire qualcosa, Simone Gusella, prima di salutare i nostri ospiti? Sì, devo dire che mi è arrivata appena una mail che ti masturbi. No, mi è arrivato un pagamento di 650 euro. Benissimo, grande. Bene, queste sono molto contento. Cioè, per favore, Simone, per favore cancella quel video. Non l'avevi promesso che lo facevi. No, ma più che altro perché non vorrei doverlo vedere per sbaglio. Potrebbe essermi scappato. Certo, è un video buio perché anche un po' buiacco. Se non c'ha la telecamera, la vedo un po' difficile. Comunque. Perché non funziona attraverso i pixel della televisione, della televisione, sì, del computer. Per trapasso. Per assorbimento cosmi. Della. Saluto Marco Gualdi. Ciao. Ho 650 euro in meno. Ok, saluto Walter Sbano. Il mio bilancio è a zero. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ah, è venerdì, giuro che torno con Arg. Ah, tra l'altro, siamo tornati su YouTube con il canale dei videoludici. Perché abbiamo fatto già ennesimi N.000. Il martedì e il venerdì escono i nostri video gameplay di prova. Il primo è già uscito, che si tratta di Genesis Alpha One. Genesis Protocol. Ragazzi, autogol, certo. Genesis Autogol. Autogol. E poi il prossimo. Era un gioco bellerrimo. Andate a vedere il video. Piccunicu, andate, sì, assolutamente. Scrivete. Zicchinicchi. Il prossimo è Zicchinicchi. E quindi niente, divertitevi assolutamente a vedere i nostri video. Saluto anche Simone Gusella. Ciao, non dimentichiamoci che è, diciamo, non tanto ufficialmente disponibile l'app Alexa di Runtime. Ancora non è disponibile, perché la bocciano in continuazione. No, basta, Amazon ha chiuso con me. Ok. Però noi non ci siamo arresi perché troveremo una strada. L'app è comunque disponibile, la potete scaricare e usare in versione beta, però. Noi per l'app Alexa hold the door, che significa comunque, troveremo il modo. Ovviamente. È comunque disponibile. E su Telegram ho fatto questo canale che si chiama Runtime Radio Alexa, in cui ci sono tutte le istruzioni per averla. E vabbè, che non l'ha sentito. Ma io ho Google Assistant, che devo fare? Niente, devo fare una carcata. Naturalmente. Va bene, quindi da OGM, Ottimisti Genericamente squallido. Mortificati è tutto. Runtime, vi auguriamo la buonanotte e ci vediamo la prossima settimana con una puntata completamente dedicata a un tema importante, che è quello del